Gentili collega all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Luciani, sono in macchina, c'è un bellissimo sole, tramonto, strada che costeggia il mare, mangio panino, mortadella e provolone e ascolto la zanzara. Ah, che meraviglia! Ragazzi, ho appena inserito nel mio curriculum la voce ascoltatore assiduo della zanzara. Siamo al top. Notizia da Napoli. A Napoli per una breve vacanza, Angela della Costanza Turner, sì, detta anche Lady CNN, nuora del proprietario della CNN Ted Turner, ha subito il tentativo di scippo dell'orologio mentre era a bordo della sua auto e ha scritto al sindaco De Magistris. Però, ragazzi miei, era a Napoli da soli 3 minuti 3, così scrive lei. Caro sindaco, fortunata. Sono Angela e dopo 3 minuti che ero nella sua città mi hanno aggredita, 3 minuti. E da tanti anni che avevo un sogno che è stato infranto in 3 minuti, volevo vedere Napoli. Qualche mio amico mi aveva avvisato non portarti quell'auto e non indossare neanche nulla di prezioso o di appariscente. Sai, quella è Napoli. No, mi sono detta, quella è una città europea, tanti amici ci sono stati e se ne sono innamorati. Perché non dovrei essere me stessa? È stato molto traumatico, scioccante per una donna sola in una città sconosciuta aver dovuto combattere e urlare per lunghissimi attimi contro due persone che mi hanno messo le mani addosso per portarmi via quello che è mio. Allora, la signora, per quanto uno se la possa prendere con Napoli e tu arrivi dopo 3 minuti e te scippano, eccetera, eccetera, era a bordo di una Porsche decappottabile. Il braccio esposto al di fuori del finestrino ferma un distributore di benzina con un Patek Philippe. Ti dico solo questo, amico mio. Una Porsche, una cazzo di Porsche. Una cazzo di Porsche, per dire, no? Cioè, a Napoli, arrivi, 3 minuti, Porsche, Patek Philippe, decappottabile. L'hanno ripulita, dai. Ma ho capito che l'hanno ripulita, lo sappiamo, amico mio, lo sappiamo l'hanno ripulita. Ma non ti puoi presentare in quel modo, non devi scrivere al sindaco, ti devi dare le botte in testa, devi sbattere. Ma cosa dici? Ma come, uno non può girare con un bel orologio? No, tu arrivi a Napoli, a Napoli. Arrivi a Napoli, signora americana di origine italiana, per carità, ambasciatrice, non lo so, con una Porsche decappottabile, ti fermi col braccio fuori col Patek Philippe, ma che devi fare di più? Cosa devi fare di più per farti rapinare? Scusami, non capisco, stai giustificando il fatto, ma non sto giustificando, che uno è a Napoli non può mettere la mano fuori dal finestrino perché te fregano tutto. Ma non ti sto giustificando nulla, figuriamoci se giustifico queste cose qui, mi conosci? Non giustifico nulla, ma amica mia, alcune cose te le vai a cercare, non ti puoi lamentare poi con il sindaco, mi hanno infranto il sogno di andare a Napoli. No. Vai a Napoli e ti metti un orologio in plastica. No, vai a Napoli e ti porti dietro la guardia del corpo. Se ti chiami Turner, ti porti dietro la guardia del corpo, amico mio. Col mitra sotto. Se qualcuno si avvicina, spari, reagisci, fai, ti proteggi. Non puoi. Se ti chiami Turner, cioè sei milionaria, ultramilionaria, non vai a Napoli con la Porsche e col Patek Philippe e col braccio messo fuori dal finestrino. Dai, su. Non dovresti fare manco la denuncia, dovresti autodenunciarti per coglionaggine. Bene, dopo questo esordio parliamo un attimo di politica, ma solo poco, Parenzo. Poco, te lo prometto, poco poco. No, dopo... perché poco, anzi? No, poco, tu sei appassionato, ma prima o poi passerà anche a te. Però sono un sacco di cose belle da dire, scusa. No, no, poi farò riascoltare il pezzo fantastico di Brunetta, ecco, che appunto ti dice tu non sai un cazzo, non, quello che dice è inutile, quello che dice è inutile. No, hai risposto benissimo. Ho anche dicendo, amico mio, l'ho chiamato. Dicendo che il signor Juncker era votato anche, è stato votato anche da quelli come Brunetta, diciamo, appartenenti no, dai deputati di Forza Italia. Questo è assolutamente io giusto. Io solo questo ricordavo e lui si è ma hai fatto alterato, benissimo, hai fatto benissimo. Nulla da eccepire. Però prima di andare a Brunetta, sì, volevo far ascoltare alla grande platea della Zanzara, sì, una roba che riguarda i grillini. Sì, io non ce l'ho con i grillini, tutt'altro. Mm. Non vado nemmeno lì a fare questa roba, a discutere sulla questione dell'assessora dell'Appendino che ha commesso una piccola infrazione. No, sulla certificazione ISE e dunque è stata multata, non mi ricordo da chi, e dunque molti dicono no, non puoi nominarla assessore, cazzate, non mi interessa quella roba là. E una cosa sulla legge elettorale, adesso sento delle voci molto favorevoli da parte dei 5 Stelle a non esatto toccare la legge elettorale. Esatto. Amico mio, dicono no, le modifiche non si possono fare, sarebbe una porcheria modificare, perché ovviamente adesso conviene, perché hanno capito che con questa legge elettorale che hanno approvato probabilmente possono vincere le elezioni al secondo turno, tutti i voti diciamo esatto vanno contro il Partito Democratico come successo nelle grandi città. Voglio farvi riascoltare quello che dicevano alcuni esponenti di 5 Stelle, da Grillo in giù, sull'Italicum, così proprio en passant, vai. Questa è una legge elettorale fatta per non farci entrare, lo capisce anche un bambino, no? Il problema siamo noi, siamo l'unica opposizione di questo paese. Peggio del fascismo. È addirittura peggio questa legge di quella che fece Mussolini nel 1923. Questo è Toninelli, Toninelli 5 Stelle, Di Battista. Due condannati, uno per danno erariale in primo grado e l'altro in via definitiva per frode fiscale, un ladro della collettività, e si incontrano e parlano di legge elettorale al di fuori del Parlamento, il luogo della legge. Sì, però non ci potete venire a prendere per il culo, va tutto bene, la legge elettorale adesso vi conviene, punto, basta, non voglio altre discussioni, basta. E va bene così, però non ci potete prendere per il culo, no, non si può modificare perché tecnicamente adesso vi conviene e dunque non la volete modificare. Dai, Brunetta, vai, Brunetta Parenzo, vai. Ma fate finta di indignarvi. Ma perché lei si indigna? Mi scusi, il Juncker è l'esponente voluto dalla Merkel di un paese, anche perché non ha niente da dire se non di interrompermi. Mi lasci dire che il pubblico ne trae più beneficio. Lasci finire il mio ragionamento. O fa come Vespa. Mi lasci parlare, non ha nulla da dire, o fa come Vespa. In realtà, qual è la discussione su Juncker? Sì. Sentite Brunetta anche contro l'Abate. Juncker è assessore di una provincia italiana fatta di evasori. Ma sono d'accordo con quello che dice Brunetta, che non conta un cazzo Juncker, che è uno che ha delle colpe anche lui per tutto quello che succede in Lussemburgo, eccetera, eccetera. Però l'hanno votato anche loro, giustamente, dice. Chi è che lo diceva? Tu o quell'altro? Io. Vabbè, uguale. Sa chi è Juncker? Beh, certo, l'assessore è l'assessore di una provincia molto italiana duro fatta di evasori e elusori fiscali che è in Lussemburgo. Ma diciamo le cose, ma Lussemburgo, ma come possiamo liquidarlo così? Ma l'avete scoperto un grande stato? Non un grande stato. Lei c'è mai stato in Lussemburgo? No, non c'ho mai stato. Lei ha mai visto i commercialisti del Lussemburgo con 87 targhette fuori dalla porta? Dove ci sono i box? Dove ci sono le società di tutto il mondo, le caselle postali, che vanno, le caselle postali dove vanno a mettere i libri contabili lì dentro. Juncker, Lussemburgo vive di questo. De Luca sulla Brexit, meraviglioso, il governatore del mondo, senti. Ma le uniche cose che perdiamo dall'uscita della Gran Bretagna è l'humor inglese, questo l'abbiamo perduto, è un po' la cultura dei giardini, per il resto non credo che perdiamo molto. Nardella si vanta del fatto che Firenze è l'unica città senza McDonald's nel centro storico. Ma i coglioni, mazza, oh, che vittoria, che trionfo, che cosa bellissima, che cosa meravigliosa. Ebbene, Firenze oggi, si può discutere quanto vogliamo, ma oggi Firenze è rimasta l'unica città d'arte che non ha nelle piazze storiche e nelle piazze prestigiose della città un McDonald's aperto. Ottimo. Pessimo, no, ottimo. Sei ottimo, grazie, pessimo. L'ho detto ieri, ma ti dico una cosa in più oggi. No, no, non mi dire niente. No, invece bisogna, è una grande scelta politica. Non mi dire, ma l'hai già detto ieri, non ti ripetere, non ti ripetere. Decido io. Non ti ripetere, non ti ripetere. Non sono vittima di nessuno, non sono agli ordini di nessuno. Se voglio aprire un altro hamburger, lo apro da un'altra parte, ma sul mio territorio decido che per il bene di questa comunità lì non c'è. Straordinario. Nardella. Ma che fai come Brunetta? Nardella? No, però ho visto che funziona, perché la tecnica sua, effettivamente, siccome sapeva di avere torto, allora andava avanti, sì, beh, avanti, certo. Perché sapeva che era in contraddizione. Mi lasci parlare, sì, sì, sì. Ecco, quindi Nardella. Allora, quattro coglioni del fronte animalista, nostri vecchi nemici, ormai di un tempo superato, passato. Morto quella del nostro confronto contro i cosiddetti nazi vegani, vanno a rompere le balle a un povero vecchio che fa pesca, credo addirittura pesca sportiva in un fiume. Pesca sportiva significa che tu prendi il pesce, sì, certo, e poi lo ributti in acqua, sì, no? Che anche questo è un po' assurdo, però, perché una volta che lo hai agganciato con l'amo, no, ma non muore. No, siamo d'accordo, però gli hai devastato, come si dice, la bocca. Ragazzi, ma non gli hai devastato nulla, quello si rimette, dai, in sesto subito dopo. Ma dai, io infatti no, a quel punto sono perché lo ammazzi immediatamente, te lo mangi. Ma non lo so, esiste la pesca sportiva? Sì, lo so che esiste, ma trovo assurdo il fatto che uno pesca il pesciolino, gli sgancia l'amo dalla ma è per mantenere la cosiddetta fauna, no? Ma in questo fauna, caso flora, beh, così è, così. Ma sì, va benissimo, una volta che l'hai preso, tu gli dai un colpo in testa, te comunque lo mangi. Un vecchio in un fiume, no? Non so dove. Patatine, no, buonissimo. Ma io sono d'accordo con te. No, questo dico, è più ipocrita quello che ci non la pesca sportiva, gli stacco l'amo dalla bocca e lo ributto in acqua. Ma se attenti a perforarselo la mandibola, saresti contento te? Vabbè, adesso non fare la cosa animalista, la mandibola del pesce, no, dai, per favore. Avere una botta in testa probabilmente. Comunque, tu in ogni sei caso, contento di un pesciolino che viene ributtato con la mandibola della bocca. Per me va bene tutto, sia la pesca sportiva che quella per mangiare pesce, uguale. Vabbè. Il fronte animalista, un piccolo gruppo di dementi, in 10 contro un vecchio, vanno lì intorno, sai quella tecnica, vanno a rompere i coglioni a quelli che pescano, buttando le pietre, no? Dunque facendolo smettere, questa è la grande cosa, sì, cioè la grande iniziativa di questi qua per interrompere la pesca, perché ovviamente i pescatori sono considerati come noi, cioè come delle specie di assassini, perché mangiano animali, sono dei sadici, aguzzini, pervertiti. Senti le gentili parole con cui circondano questo povero vecchio che sta lì a passare la domenica lì col sole, sai, con la canotta, con la canna da pesca, non fa niente. La panza, la birra. Ma sì, ma adesso non esagerare, perché per forza la panza, la birra, magari è magro e non beve. No, sicuramente con la panza, tutto sudato, la panza, i peli. Sì, effettivamente era grosso, però comunque. Appunto, vedi. Ecco, lei Anna e gioca con i pesci. Brava Anna, brava. Pescatori in gabbia. Si lamentano, noi stiamo pulendo i loro cestini. Cacciatori, pescatori, stessa merda. Andiamo da tutti, stia tranquillo, non si preoccupi, andiamo da tutti guardi, andiamo. Tutti i weekend siamo purtroppo con facce di merda diverse, guardi. Libero salame in libero stato, libero salame in libero stato. E traffico. La zanzara. Cruciani, da quando sento la zanzara mi sono reso conto che l'essere umano è una cosa strana. Ma te piglia sta gente tu, a te vai piscando sta gente. Allora io andrei subito, caro Parenzo, diamo il numero di telefono, diamo i numeri, via, numeri, sì. numeri. Diamo numeri. Il tuo numero di cellulare? No, dici? No. Ah, no, qualche volta dovremmo farlo, sai, prima o poi lo farò, dare il mio numero di cellulare, sarebbe incredibile. Perfetta. Sì, poi lo abbandono un giorno dopo, però voglio capire tutti i messaggi che arrivano. O Oppure cominciamo col dare il numero di gente che ci sta sui coglioni, ad esempio. Sì, questa potrebbe essere un'idea per andare in tribunale, però l'idea. Cioè, per, andare, per essere condannato in tribunale. Ma sai uno idea. Che ti roba le balle, dice, vabbè, adesso do il tuo numero di telefono, vediamo se continui. E vediamo. vediamo. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, Alessandro Varese, vai. Ciao Davide. Dimmi. Volevo chiederti se una persona va a Napoli è autorizzata ad essere scippata se ha un Patè Philippe. Sì. Quindi una ragazza che va in giro in minigonna è... può essere stuprata. Ecco la puttanata. Ecco la puttanata, dai. Ecco la prima puttanata. No, Alessandro, no. Sono due cose completamente diverse, no, è evidente. Io non ho la stessa cosa. Io non ho detto che è autorizzato a, uno è autorizzato a rubare. Questo non l'ho mai detto. Ho detto semplicemente che se tu vai a Napoli e dopo tre minuti, come è successo alla signora Angela della Costanza Turner, detta anche Lady CNN, una specie di ambasciatrice di questa, no? Turner, si chiama Turner, hai presente, no? Hai presente? Sì, sì, I Billions, hai presente i Billions, no? Yes. Esatto. Allora, se tu vai a Napoli e ti presenti con una signora Porsche, con una Porsche, decappottabile, Patek Philippe fuori, ferma a una stazione di servizio per mettere la benzina, in bella mostra fuori, se poi ti rapinano, il problema è tuo, è solo tu, è evidente che poi lascia perdere. Come la ragazza che è stuprata, il problema è suo. Non ho capito il collegamento, francamente non riesco a capire il collegamento. Quelli stupri, ma sono comunque dei reati, cosa vuol dire? Ma non c'entra nulla. Ma voglio dire, ma uno è diverso. Non può giustificare, ma io non sto giustificando nulla. Ma figurati se giustifico, devono andare in galera questi qua che hanno rubato la signora Turner. Ma in allora galera. Uno non può dire. Sto dicendo semplicemente che te la vai no a cercare, ma di più te la vai a cercare. E invece, secondo me, una donna che va in minigonna non se la va a cercare. Questa è la ma è come quelli che dicono non si va in minigonna, guarda no, che è uguale. Ma non dire cazzate, dai pure come tu. Come quelli che alla fine giustificano la violenza sulle donne, dice, beh, per forza è andata con la minigonna. Io malgrado devo dare ragione a Parenzo. Ma è uguale, ma infatti hai detto la stessa dal mio punto di vista. Come fai a sostenere che uno è uguale alla minigonna? Io non sto sostenendo nulla. Non sto mica dicendo che sono giustificati quelli che vanno a rubare il Patek Filippo. Allora, come fai a dire che a Napoli non si può andare con una macchina sto elegante dicendo, come quella? Ma non puoi andare, è chiaro che non puoi andare. Il tasso di criminali è talmente alto e la possibilità che ti rubino è talmente alta che tu non ti puoi presentare a Napoli con una Porsche con il Patek Filippo fuori. Ma questo è evidente se dopo tre minuti. Ma è come quelli che sostengono, siccome la minigonna l'hanno violentata. È uguale. Vabbè, è identico. Ma non è la stessa cosa, perché non ci sono luoghi fisici dove è più pericoloso andare in minigonna. Ma allora vuol dire che non è Napoli che è pericolosa perché uno va con la macchina elegante. Alessandro, secondo me state dicendo una puttanata. Comunque, Armando Latina, vai. Sì, allora, io chiamavo per sempre questa questione di Napoli, del quadro della voce della signora Darmi. E allora? Se tu dici che la signora Darmi... Sì, ma amico mio, devi parlare in maniera più forte oppure devi togliere di solito le cose che non sto a ripetere, che sennò mi rompo pure i coglioni. Allora, se tu dici che la signora Darmi... tu fai passare il messaggio che a Napoli tutto è possibile, nel senso tutto non si sente amico mio, dai su, parla più vicino con sta bocca, dai, microfono, mi senti? Ma non devi usare il microfono, Stefano da Roma, vai. Pronto? Sì, Stefano, dimmi. Ciao. Allora, io sostengo, tenendo presente anche il grande casino, è l'unico termine, che esiste in questo momento nella destra italiana, sì. L'ultimo esempio è stato Brunetta ieri, io credo che Donato da Varese possa rappresentare che cosa? Scusa. Degnamente rappresentare il leader della destra che tanto stiamo cercando. Capito Parenzo? Capito Parenzo? Sì, certo, di una destra che probabilmente può governare la gabbia degli animali dello zoo di Roma, bellissimo, no, certo. Scusami, David, lui ha la passione del primo Bossi, ricordate il primo Bossi? Beh, adesso che era questo, scusi, non ho capito di chi parla. Il signor Donato da Varese. Donato da Varese come il primo Bossi. Sì. Ma lei si fa di eroina pesante proprio. Inoltre mi sembra da quel po' che lo conosco sentendolo da voi, lei guardi la salva solo questa straordinaria R che nobilita le stronzate che sta dicendo. Chiedo scusa, però chieda scusa. Se la mettiamo sui difetti fisici, allora no, non è fisici, guardi, io notavo semplicemente che questa sua straordinaria R che mi ricorda i grandi leader del Partito Comunista Italiano, in particolare Dottorella, questa straordinaria è nobilita qualsiasi puttanata che ho sentito sinora. Vabbè, insomma, Stefano, cosa vuoi dire in sostanza? Che... Io voglio dire questo, che bisognerebbe intanto evitare di prenderlo in giro, come spesso succede. E inoltre, io lo vedo, non so quali sono i canali per presentarsi, tra l'altro lui spesso dice anche di avere un certo seguito, dice sì, di avere sì. anche un certo seguito, sì. per cui secondo me deve proporsi come leader indiscusso della destra italiana per fronteggiare sì. quello che succede. Però ovviamente tu ieri non c'eri, Parenzo, io ti volevo far ascoltare in conclusione di questa piccola parte di Zanzara, cioè non c'eri alla fine, e questa piccola parte di Zanzara in cui sostanzialmente Donato parla ovviamente dell'invasione islamica, eccetera eccetera. Senti, senti, no, così un assaggio del nuovo leader della destra italiana secondo Stefano da Roma. Tu sai che le donne islamiche partoriscono 4 volte più delle donne cristiane? Ti sei mai posto questa domanda? Vabbè, no, stamattina mi ponevo questo problema. Ecco, tu lo sai che basta un calcolo anche approssimativo, fra 35 anni nel Parlamento italiano ci sarà la Sharia? Lo sai o non lo sai? Stai facendo qualcosa per i tuoi figli? Allora io quando parlo a te, parlo con milioni di gente come te. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Assicom. Vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. La Zanzara. Sono Massimiliano da Bergamo. Secondo me la Turner voleva essere derubata, si è cercata un'emozione a Napoli con la Porsche e l'orologio in bella mostra. Lei sapeva di essere derubata, voleva provare questa emozione e così ci è riuscita. Quindi se tu vai in mezzo a un gruppo di giovani adulti un po' infoiati, perché comunque il maschio c'ha sempre la caccia pronta, in minigonna, senza reggiseno, con un pezzettino di seno che si vede in questi vestiti eleganti che fanno i nostri meravigliosi stilisti, e ti violentano in gruppo, va bene. Cazzo Cruciani, ma che cazzo dici? Cruciani, ma sei proprio un coglione, sei. Allora, Parenzo, io credo che proprio voi non abbiate capito, eh. Cioè, io credo che voi proprio non abbiate afferrato quello che volevo dire. Cioè, adesso non mi sto giustificando in nulla, ma veramente non avete afferrato. Io non sto affatto giustificando i ladri della signora Turner a Napoli, né ho mai giustificato quelli che stuprano una ragazza che magari è vestita in maniera, come dire, no? Cioè, sì, come si dice, insomma, con la minigonna o comunque una mezzanude. Cioè, io non ho mai giustificato e non credo nemmeno, non credo che se una si veste in un modo così abbia delle responsabilità. Tutt'altro, come non credo che abbia delle responsabilità la signora Turner se è andata, come dire, se è se stessa. Però bisogna capire anche il contesto in cui si va. Cioè, questo non c'entra niente, sono due cose completamente diverse rispetto a una che va in giro magari di sera con le proprie amiche vestita con la minigonna e viene stuprata, ma non c'è nessuna giustificazione, né ha attirato qualcuno né ha delle responsabilità, figuriamoci, l'ho sempre detto. Cioè, stai a sentire quello che dicono gli islamici, adesso me ne facciamo sentire uno fra poco. Cioè, ma zero, da questo punto di vista non mi potete rompere i coglioni. Io ho detto semplicemente che se una ricca signora americana, pur consigliata di andare a Napoli, pur consigliata da amici suoi di andare a Napoli perché voleva andare a Napoli, il sogno, eccetera, eccetera, e va benissimo. Pur consigliare di andare a Napoli prendendo certe precauzioni, come è giusto che sia, è come se tu vai a Copacabana o in Brasile e ti porti dietro un bel Rolex. È evidente che dopo 3 secondi arriva qualcuno e ti rompe i coglioni o te lo vuole rubare, no? Ma mi pare scontato. Se vai in fila a Copacabana con le mani, con il braccio di fuori e con un Rolex attaccato, e poi dici mi hanno rubato, che stronzi questi brasiliani. Certo, sono stronzi, ma sei stronza pure tu, o no? Cioè, ma fila o non fila il discorso? No, cioè, mi pare non che fila, non fili, vabbè, mi pare che non fili per non nulla, fila, ma poco male, tante cose non filano, ma sì, non fila nulla. Questa è una delle tante che non fila. Non fila nulla, per carità, non fila nulla. Filare quello che abbiamo scovato, a proposito sempre di animalisti, una vecchia trasmissione in cui era protagonista la nostra amata Rosita Celentano. Anche qui non si dica che ce l'abbiamo con lei per forza. No, a me eccetera. Peraltro piace tantissimo perché la trasmissione è meravigliosa, l'ascolto sempre. No, io non l'ascolto mai, ascolto solo questi pezzettini. Allora, agosto 2013, poi forse ancora non era animalista, però nell'agosto del 2013 la signora Celentano, figlia di ovviamente di chi sapete, la signora Rosita Celentano, era ospite dalla signora Parodi in un programma di cucina, cucinava una pasta con la salsiccia, e sto dicendo la pasta, poi può darsi che abbia cambiato idea da 3 anni a questa parte, io non lo so. Agosto 2013, per carità. E cosa ci prepari, Rosita? Ti preparo una pasta che mi ha insegnato la mamma del mio fidanzato, Anna, e che ho trovato deliziosa. E ci vuole olio, aglio, salvia e salsiccia. Io non dico niente, Non dico nulla, per carità, non dico nulla. Vabbè, ma lei l'ha detto che non è mai, cioè non è sempre stata vegetariana. Ah, ma stiamo parlando allora di qualche anno fa, non di secoli fa, di 2-3 anni fa. La gente cambia. Ah, l'estremismo è degli ultimi anni, diciamo, no? Degli ultimi 2-3 anni, eccetera, eccetera. Comunque, prima era come gli altri, la salsiccia, eccetera, no? I cadaveri. Allora, la salsiccia, se uno vuole fare, io tolgo la pelle. Dai, allora ti do una mano così. Perché facciamo prima. Okay. Per chi vuole averla, questa qui è salsiccia di maiale, però se uno la vuole un pochino più leggera può usare la salsiccia di pollo. Adesso ci sono anche le salsicce. No, noi ci piace di maiale. Salsiccia di maiale. Non è finita, non è finita. Poi insomma la salsiccia nella pasta dà sempre grande soddisfazione. Sì. Comunque la metti. La salsiccia, devo dire, dà sempre grande soddisfazione. Ci sta. Battutone, la salsiccia dà sempre grande soddisfazione. Io direi di andare a Latina da Davide, vai. Vai Davide, ciao, dimmi. Cari. Ciao, ciao, dimmi. Ciao, cara. Il discorso dei Toninelli a me non mi è andato giù. Perché l'ha difeso. Cioè dei 5 Stelle che adesso non voglio che si modifichi la legge elettorale. Sì, perché dai, ragazzi, ha fatto ma anche gli altri adesso la, anche gli altri adesso la vogliono cambiare perché conviene a loro, Sia, ma infatti siamo in un chiaro, mondo di trasformisti, ragazzi. Cioè l'avete detto anche voi, no, con chi mangia la salsiccia o meno, e adesso non la mangia più con Red Ronnie che è cambiato e con il nostro carissimo Presidente del Consiglio che cambia idea ogni 5 minuti. No, ma su questo non c'è dubbio, ognuno gioca la sua partita, cioè non è che c'è uno più puro in questa partita qua. Dai, è soltanto una questione di interessi per tutti. Io dico semplicemente, perché siccome spesso il Movimento 5 Stelle eccetera si dichiarano puri, beh, io magari li preferisco a molti altri, ma non è questo il punto. Il punto ma è no, su questa questione qui della legge elettorale, di cui ripeto non frega un cazzo a nessuno, hanno sostenuto per una vita che era una porcheria. Adesso hanno capito che in qualche modo possono essere favoriti da questa cosa e non la vogliono modificare. È molto semplice ragionamento. Ma guarda, la dichiarazione era un'altra, La dichiarazione per quello ma che sì, ne ho ma capito formalmente, ho sentito io, ma formalmente dicono, ti raccontano quello che vogliono, ma nella realtà non conviene a loro modificarla in questo momento. Assolutamente. E allora appunto basta, ragione. Io ho detto solo questo. No, aspetta, perché loro dicevano non modificare, cioè non continuiamo a perdere tempo a continuare a modificare, radiamola completamente a zero e ne facciamo una costituzionalmente perfetta. Sì, vabbè, certo, sanno che non è possibile farlo, per cui... Davide, ciao. Alberto Cuneo, vai. Sì, pronto? Vai, Alberto, dimmi. Ciao Giuseppe, ascolta, io chiamo per questo motivo, perché mi rifaccio al discorso che avete fatto prima sul sindaco Nardella che non vuole fare aprire il McDonald's a Firenze. Sì. Ma c'è già il McDonald's a Firenze, che dite? Sì, a piazza, al centro, a piazza Santa Croce, dai, forza. Ma il sindaco ha deciso che lì vabbè, si mangia il panino con l'aperdotto. Ma non è vero, non si mangia nessun panino con l'aperdotto, dai. O non c'è odore di fishburger, benissimo. Ma non c'è nessun odore di fishburger. Si può mangiare il McDonald's a Firenze tranquillamente in più posti. Vabbè, Alberto, allora? No, vabbè. Volevo dire una cosa. Aspetta, Parenzo, fammi parlare. Volevo dire che giornalisticamente penso che Parenzo sia un coglione. Perché? Ma che vuol dire? Scusa, va benissimo. Va benissimo, perché tu sei sempre, adesso prima hai iniziato a elogiare Nardella perché ha fatto una scelta per difendere. Ma se gli piace quello che ha deciso Nardella, gli piace quello che ha deciso. È una scelta coraggiosa e anche di intelligente, di un sindaco che decide. No, tu sei sempre pronto a leccare il culo quando fai il giornalista sulla D24, quando fai il giornalista. Sì, però adesso tu puoi dire il culo a tutti. Ma tu puoi dire quello che ti pare, Alberto. Ieri mi sono appiccicato con Brunetta, ma che c'entra? Mi interessa il suo giudizio, va bene, lei ha questa opinione, ma non me ne frega niente. Entriamo nel merito. Lei vuole il McDonald's a Firenze nel centro, che nella piazza? Che ne frega, quelle a Cuneo, è a Cuneo. E allora che cazzo chiama a fare? Per dirti giornalisticamente che sei un pirla, appunto. Va bene, d'accordo, abbiamo capito. Ma dormirò sereno lo stesso stanotte, anzi. Lorenzo, alle 19.26 la gente torna a casa, ascolta Radio 24, ascolta la Zanzara, perché? Per due motivi. Uno per Cruciani, perché Cruciani da... Ma quello che cazzo c'entra adesso, scusa? Benissimo. Da 6-7 anni ha rivoluzionato il modo di fare radio, e piace ascoltare Cruciani, dall'altra parte perché dopo tutto il giorno che lavori... Vuoi ascoltare qualcuno che dice delle cagate più grosse magari di bene. E allora meno male. Mi sono tolto un peso, basta. Adesso se vivevi con questo peso, amico mio, si può dire che vivevi anche abbastanza male. Però devo dire la verità, ognuno vive con il suo peso. Ma magari sei anche una brava persona, prendo, però giornalisticamente sei un coglione, punto. Ma lei anche è una brava persona, mentalmente è un disturbato, ma anche lei è una brava persona. Politicamente un disturbato. Che il tuo lavoro. Tu non sai che lavoro faccio, non puoi giudicarmi. No, da quel che dice lei sembra un disturbato, ma dal punto di vista non politico... Non sono un disturbato, sono una persona normale come tanti che ascolta la Zanzara, appunto. Normale, questo normale, adesso bisogna un attimo... Massimo Bergamo. Va benissimo, vai. C'è problema. Ciao Cruciani, ciao dimmi, Parenzo. Dimmi. Ciao fratello. Ciao a tutte e due. Ciao. Ascoltate, io devo fare una piccola parentesi, siccome mi sono sentito in causa, sono un pescatore, ok? Sì. Da lunga data, ho 49 anni. Ok, Parenzo, mi spiace, ma stai sbagliando tutto della tua vita. Non sono tanto grasso quanto sudato, quanto mi piace tanto la prugna e tutto il resto. La prugna, che cos'è? La figa? La prugna è quella che tu dici figa, quello, tutto quello. Non so, la prugna hai detto, amico mio. Cioè, sì, non è che la prugna. È uno dei tanti modi di dire quella roba lì, dai. Esattamente. Vabbè, esattamente. Massimo, allora? Allora devo dire anche un'altra cosa. Gli animalisti. Ascoltate ragazzi, non venite a rompere i coglioni alla gente che alla sabato, alla domenica, durante la settimana a me lo dici. Si fa i cazzi suoi, ok? Perché se io vi trovo davanti a me che vi rompete i coglioni, mi tirate i sassi, io vi spacco la testa. Bravo, non diglielo. Diglielo a quelle teste di cazzo là di fronte perché animalista. Perché io questi personaggi non gli faccio niente, loro non mi devono cagare il cazzo se io vado a pescare e rilascio il pesce che non lo mangio. Io non uccido nessuno, però se tu mi vieni a rompere i coglioni, io si t'ammazzo. Sì, perché Massimo, io non rompo le palle a nessuno. No, no, ma dovresti dire in maniera molto chiara. Parenzo, io ti stimo tantissimo, sei simpaticissimo, mi piaci un sacco, però non dire certe cagate. Su che cosa? Sui pesci, su quella natura, su tante cose. Ma no, lui ha detto un'altra cosa, ha detto che più che la pesca sportiva, a questo punto meglio mangiarsi il pesce, questo dice. Ma sì, ma sicuramente, ma però quando te ne mangi uno, sei in quattro in famiglia, te ne mangi quattro, punto. Io non ne mangio neanche uno, io li prendo, li rilascio, vado all'aria aperta, vivo bene, non lascio cartacce in giro, non rompo i coglioni a nessuno. Se ti piace stare lì tutto il giorno al bordo di un laghetto con una parmigiana di melanzane fritte, il sole che ti batte sulla testa, che ne sai che c'è la parmigiana? Questo che a ti fumare manca, sigarette ragazzo, anziché Parenzo, stare con la tua bella in un letto matrimoniale a tre Parenzo, piazze, è questo quello che ti manca, è questo quello che ti manca. Io non fumo, non bevo tanto, però mi piace la patata, come dice qualcun altro. Non ho la pancia che hai tu, diciamo, va bene, comunque ragazzi... Qualche rotolino ce l'hai, dai. Cazzarola sei rotondino, su. No, rotolino. Fermi tutti. Parenzo, salvaci dalle puttanate di Cruciani. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Helios Patient Portal è il portale paziente della sanità. Vai su helios24.it. La Zanzara. un esame in questa cazzo di Inghilterra, un raggio di sole, petto nudo a mostrar l'addome, bottiglietta di Don Pero e siamo al top, zio. Cazzo, denunciare per stalking chi rompe i coglioni a chi pesca o a chiunque faccia delle attività. Siamo liberi, cazzo, denunciare per stalking. Questi vegani, perché non mi vengono a rompere i coglioni a me mentre vado a caccia? Venite, che vi impallino, brutti stronzi. Cruciani, io ai cacciatori, quando li vedo nei boschi, gli foro tutte le gomme delle Jeep e godo da Dio. Non andate dai vecchi isolati, da quelli che non reagiscono, eccetera, eccetera, a buttare la roba lì, amici miei. Provate ad andare da questi qua che chiamano, vai, in alcune zone. Provate. Vanno là, in 10, circondano un povero vecchio, buttano i sassi dentro l'acqua, questo sta con la canna da pesca lì, poveraccio, ha anche paura, no? Perché questi cominciano a insultarlo, assassino, torturatore di pesce, eccetera, eccetera. Fanno i gradassi con, capito, con una sola persona, mamma mia che schifo. Allora, a proposito di Islam, di islamici, caro Parenzo, il mitologico Sheikh Nur. Sheikh Nur. Come no? Sai chi è Sheikh Nur? Sheikh Nur, come mio amico di Padova, è Ali Sheikh Nur, il biologo somalo islamico padovano. Sheikh Nur, io Ali Sheikh Nur, no, ma non c'è niente da ridere. No, no, ma non c'è da ridere, non è che se uno dice Cruciani. No, mi fa ridere Sheikh Nur. Sheikh Nur. Cruciani. Sheikh Nur, no, comunque è simpatico Sheikh Nur, molto simpatico. Però ha detto una cazzata. Ha detto una cazzata, dice che l'Islam è la salvezza dell'Occidente perché non ci sono pedofili e corrotti nell'Islam. Che poi non ci siano pedofili e corrotti, lo dice, corrotti è pieno di corrotti, pedofili pure, insomma, è pieno di pedofili pure tra gli islamici. Comunque Sheikh Nur, il tuo amico Sheikh Nur, ogni tanto le cazzate le dicono pure gli amici tuoi, ma sì, questo non c'è dubbio, appunto. Non sono immuni, no, ecco. La salvezza dell'Occidente è l'Islam. Un secondo, è una religione di pace. Non ci sono pedofili, non ci sono petulanti, non ci sono politici corrotti. L'Islam è la salvezza. Ma Sheikh Nur ci vorrebbe donato oggi. Sheikh Nur, non ci sono corrotti nell'Islam, ma sono dei paesi più corrotti del mondo, quelli là. Sono i paesi più corrotti al mondo. Questa è indubbiamente una grande sciocchezza. Ma non solo, ma che non ci sono pedofili nell'Islam. Non ci sono pedofili. Dai, su. No, questa è indubbiamente una sciocchezza. Anche i grandi dillo, talenti. Dillo, amico Sheikh Nur, fai un appello. Ecco, fratello Ali Sheikh Nur, grande amico padovano islamico, sì, biologo, sì, hai detto una cazzata. Non solo ha detto una cazzata, ha detto anche l'Islam è la salvezza dell'Occidente. Di qualcosa, Sheikh Nur. L'Islam è la salvezza per chi lo vuole, ma per l'Occidente adesso ci sono anche altre salvezze. Bravo. Mi piacerebbe informare tutti gli animalisti all'ascolto che giusto l'altro ieri, dopo una lunga battuta di pesca, per fare spazio nel cestino mi sono messo a far esplodere qualche pesce contro i sassi, giusto per divertimento. Mi scrive un signore, un ascoltatore della Zanzara. Ma no, un malato di mente. Mi piacerebbe informare tutti gli animalisti all'ascolto che giusto l'altro ieri, dopo una lunga battuta di pesca, per far spazio nel cestino mi sono messo a far esplodere qualche pesce contro i sassi, giusto per divertimento. Venitemi pure a rompere i coglioni. Abito in Val Borbera. Vi aspetto. Val Borbera, se si pronuncia così, o Borbera, Borbera, non lo so. Altro che Sheikh Nur. Carlo Rimini, vai. Buonasera Cruciani, salve. Dimmi. Ascolta, io giusto un intervento di giusto dammi 60 secondi perché ti devo dire un paio di cosine. Allora, io sto a Rimini. Non ci sono limiti. Napoli. Ti ho chiamato per il discorso della Turner. Sì. Allora, io non voglio andare a dire il fatto che tu dici ogni volta se vai a, come detto prima, se te ne vai a Rio de Janeiro, oppure per esempio se vai in qualche paese latinoamericano, ti metti vestito magari in un certo modo, ti porti il Rolex, ti porti un telefono iPhone, mi pare scontato, che tanto, no? Per dire, che tanto per dire a Caracas, soltanto se tu metti fuori un iPhone ti ammazzano subito per rubartelo. Non assolutamente questo. No, ma dillo, perché lo dico pure io. Ascolta, ed è secondo me mettere a paragone Napoli, la città di Napoli, io sono napoletano, eh? Sì. Mettere a paragone la città di Napoli con una città del Latin America, è come praticamente andare a dire in un edificio sono tutti quanti. Ma io non ho fatto nemmeno, sei tu che hai fatto il paragone, io non l'ho fatto. Ascolta, io non ti sto facendo né un richiamo né tantomeno ti sto facendo. Anche perché i richiami non li ricevo dai tempi delle elementari, credo. Però ti voglio chiedere una cosa. È sicuro come la morte che ogni volta che succede un problema in tutta Italia nessuno ne parla. Ok? Rapinano AMSIC a Napoli, se ne parla. Ma è normale, Carlo, perché ti stupisci? Non c'è un complotto antinapoletano, non c'è un pregiudizio. Non è questo che sto dicendo, fammi finire. E te faccio finire. Allora, io capisco queste cose e non le voglio . Non ci voglio assolutamente ricamare sì. vicino, allora? Perché figuriamoci, ok? Però una cosa che dà fastidio, ok, è che la Turner viene rapinata a Napoli, in un posto che io ho saputo dove, ok, che è un posto malfamato, ok, e poi su questa cosa si marcia perché a Napoli la cosa fa notizia, quando invece in altre città d'Italia succede lo stesso o peggio, e la cosa ma non sono non stato rapinato notizia. Io, amico mio, dopo tre la minuti che sono arrivato a Napoli, notizia. Non sono stato rapinato io, ma la signora Turner è una cosa un po' diversa, so, che carità. Ha scritto al sindaco e il sindaco ha risposto. Cioè... È perché la signora Turner è stata doppiamente stupida. Prima, ah, bravo, lo vedi? Prima, fermati. Prima perché è andato, come giustamente dici tu, è andato in una zona con la macchina no, nessuna da pupetta, zona, al centro l'orologio sarà andato. Da pupetto, è al centro, guarda che tanti scippi, tante rapine dei turisti le vanno a fare sui quartieri spagnoli, perché la gente se ne va sui quartieri spagnoli, vabbè, allora vestiti tutto punto, ok? Allora, io quello che dico, la signora Turner ha sbagliato due volte, perché se n'è andato a fare la pupetta in qualche zona del centro dove sì. fanno dove sta un po' di movimento, ed è stata stupida altre due volte. La prima perché ha scritto a De Magistris lamentandosi. De Magistris è un sindaco, De Magistris muove delle forze di polizia, però le forze di polizia non possono stare un poliziotto ogni abitante, se no ci vorrebbero 2 milioni di poliziotti. Sì, amico tuo, amico mio, terzo, ascoltami, poi dopo ti lascio parlare. Terzo, è stata stupida, sono io che decido quando. Perché l'ha messo sul giornale. Perché? Ma quella è normale, amico mio, si chiama Turner. Ma si chiama Turner quella, dai, su, caro. Ma non si può chiamare pure Silvio Berlusconi, per me non mi interessa. No, capito, a te non interessa. Se uno viene rapinato e si chiama Turner, è diverso se rapinano, si rapinano uno qualsiasi, dai. Rapinato, l'unica persona a cui si deve rivolgere la polizia andrà a fare. Va bene, Carlo, il punto fondamentale è un altro. Diciamo la verità, diciamocela tutta. Se uno arriva, non è che ci sono molte città dove uno arriva e dopo tre minuti viene rapinato, cioè, non è che esistono tantissime città. Questa è la realtà. Se la vogliamo nascondere, la possiamo nascondere. Ma questa cosa qui, tu sei napoletano, eccetera, non la possiamo nascondere. Non bisogna nasconderla. Non bisogna nasconderla questa roba qua. Non si può nascondere. Quelle arrivate in città, dopo tre minuti l'hanno rapinata. Questa è la realtà. La vuoi nascondere questa cosa? Vabbè, allora nascondi. Guarda che anch'io sono stato rapinato dopo pochi minuti che sono arrivato a Torbella Monaca a Roma. Ah, però non è che a Torbella Monaca. Ma caro mio, io ci lavoro. Bene, allora stai dicendo Napoli uguale Torbella Monaca. Va bene, d'accordo, no, lo dici Napoli tu. No, Napoli è uguale, Torbella Monaca, Roma è uguale a Parco... Sì, non ha tutti i torti questo signore, mi pare lucido, io adesso non volevo intervenire nella vostra querela, mi pare lucidissimo, cioè lui ti sta dicendo che ci sono tante altre zone d'Italia in cui se uno si presenta... È un po' diverso, ragazzi, è un po' diverso. Ma non è vero, è realista, zone, non esistono... Zone sì, ma questa non è che è andata a Scampia, come amico dice mio, giusto. Amico mio, il sottoscritto... Grazie, ciao, che ha fatto il sottoscritto? Il sottoscritto si è girato tutto quanto il Sud America. Questo è il punto. Okay. Vabbè. Bravo. E il Sud America, ti posso garantire che è molto ma molto più pericoloso non di dubbio. Napoli e di tante non città c'è dubbio. Italiane messe insieme. Stiamo parlando del Sud America. Ciao, Cristian Cagliari, vai. Sì, ciao Cruciani, ciao Parenzo, sono Cristian da Cagliari, non so se vi ricordate quello della caccia alla lepre. La caccia alla lepre, c'è quello che fa la caccia alla lepre? Con la macchina. No, bravo. Parenzo. Sì, continui a fare la caccia alla lepre con la macchina? No, ma volevo raccontarvi un'altra cosa. L'assassino criminale, certo. Beh, no, vai Cristian, dimmi, dai, che mi vuoi raccontare? 30 secondi per raccontare un'altra cosa. Siccome per lavoro io ho a che fare con il personale delle compagnie aeree, oggi chiacchieravo con un collega di Alitalia e commentavo la nuova divisa che hanno le hostess di Alitalia. Allora, ma tu lavori all'Alitalia? No, non lavoro all'Alitalia. Perché è praticamente un burka, cioè sono vestita da Vabbè, lo sappiamo, questa è una roba vecchia. Andando avanti nel discorso, questa persona di Alitalia mi ha raccontato che hanno per disposizione, quando si siedono, soprattutto nell'aeromobile, in fase di decollo e atterraggio, devono tenere le mani, cioè quando ti siedi tu tieni le mani, diciamo, sopra i genitali, per così dire. Non ho capito, scusa, le hostess femmine dunque stai parlando? Sì, parlo delle femmine, le hostess altrimenti sarebbero obbligate a fare cosa? Allora, quando sai, diciamo una posizione abbastanza naturale, tu ti siedi e tieni le mani sopra i, diciamo, i genitali, o le tieni sui braccioli o le tieni, diciamo, nella zona pelvica, per così dire. Loro hanno per disposizione di tenere la mano sinistra a contatto con i genitali e la mano destra sopra, per il discorso della mano impura che si faceva. Ma chi te l'ha detta sta cosa? Non ho capito. Una persona di un dipendente all'Italia. Cioè, Etihad obbligherebbe le hostess a viaggiare con la mano sinistra sui genitali quando si siedono e tengono le mani, diciamo, poggiate sopra, in mezzo alle cosce, per così dire. Cioè, la posizione naturale non è una cosa, uno si siede e tiene le mani in mezzo alle cosce. Devono tenere la mano sinistra, diciamo, sotto, e la mano destra sopra, in modo che la mano sinistra, cioè quella impura. Ho capito. Vabbè. Non mi pare che possa essere un obbligo questa roba qui. Mi sembrerebbe piuttosto strano. Comunque verificheremo. Ciao Cristian. Ciao, ciao, ciao. Io andrei a Milano, Alfonso. Alfonso, vai. Buonasera Parenzo, buonasera Cruciani. Vai, dimmi. Allora, io sono un pescatore sportivo. Io lavoro, vivo a Milano, però sono nato in provincia di Taranto e di conseguenza questo mio hobby, grande passione assoluta, la pratico naturalmente l'estate in provincia di Taranto. D'accordo, benissimo. Poi? Come me ce ne sono tanti altri. Dunque? Allora io voglio dire ai vegani, venite in provincia di Taranto, precisamente Chiatona, dove? Castellaneta Marina, sì? E venite a romperci i coglioni. Venite. Perché? Che succede? Perché lì i vegani non si fanno vedere, Cruciani. Perché? Non si fanno vedere, han paura perché noi gli rompiamo il culo, gli vanno a rompere il cazzo al vecchietto che va a pescare al fiume, ma non vengono dalle nostre parti, non vengono. No, ma segnala un po' questa cosa, segnala un po' la... La sto segnalando. Esattamente la località, per cui magari qualcuno si addentra. Castellaneta Marina, Mottola, Massafra, Chiatona, Ginosa Marina, tutte quelle zone lì. Siamo centinaia di imbarcazioni che usciamo la mattina alle 4 e torniamo, tengo a precisare, pesca sportiva. Sì, ma non ci sarebbe niente di male se poi ve li mangiate i pesci, cioè, no, ma io me li mangio e devi vedere come, Cruciani. Devi vedere come. È pesca sportiva o pesca normale? Io non ho capito. 10 kg, io esco la mattina alle 5, rientro praticamente verso le 10, ho 10-12 kg di pesca. Ma i pesci, quando li prendi per la pesca sportiva, come fanno a rimanere vivi? Scusa, come fai poi a staccare? No, non restano vivi. Ma allora arrivano, non è arrivano. È pesca sportiva, usando la canna. Bene, non usiamo le reti. Ah, vabbè, cioè, d'accordo, ma è la pesca, cioè non è che poi ributti i pesci in acqua. No, che ributti, coglioni? Io vado, esco la mattina alle 5 per ributtarli in acqua, ma che cazzo, sono mica cretino. Vabbè, comunque, amico mio, questi qua non vengono da voi. Da voi non ci vengono. Hanno paura di quella zona lì. Hanno paura. Io vorrei proprio vederne uno che viene a rompere i coglioni. Io vorrei vederne uno. Vabbè. Oppure venissero in branchi. Perché questo non succede? Quindi loro sono dei vigliacchi, perché se la vanno a prendere con la gente dove possono fare i cretini. Però dove c'è la gente che non si fa mettere i piedi in testa, e te lo posso garantire, perché da noi, per quanto uno ne possa dire, c'è ancora la fame. Vabbè. Perché ho capito. Ciao amico mio. Luigi, provincia di Milano, vai. Ciao. Dimmi. Giuseppe, no, io volevo semplicemente fare una considerazione di questo genere riguardo il McDonald's di Firenze, no? Sì. Non si sente il cazzo. No. Marco, provincia di Salerno, dai. Pronto? Marco, dimmi. Giuseppe, ciao, buonasera. Volevo dire, riguardo, ho sentito ieri riguardo ai vegani, riguardo alla bambina che si era portata ai Casellini. E Parenzo ha fatto sta accostamento tra i vaccini e la famiglia che poi giustamente fa decide di dar mangiare i bambini vegani in modo vegano e altro. Che cazzo di paragone o accostamento mi fa Parenzo con i vaccini, che mi dice i vaccini, siccome scusi sempre di salute pubblica si tratta, perché si tratta di salute pubblica, no, sono due cose diverse, dai. Vabbè, fate voi una cosa, ma sono due cose diverse. I genitori che danno, come dire, che alimentano col veganesimo, pubblica, si chiama, ma non c'entra niente, dai, su. Ha delle responsabilità sul figlio minorenne, come tu sai. Tu sai meglio di me che i vaccini, una parte dei vaccini sono obbligatori, quindi il cazzo è che tu mi vieni a dire i vaccini sono diversi, sono cose diverse. No, è così, Giuseppe, perché Marco, non ho capito, sono cose diverse, l'abbiamo detto, ciao. Allora ragazzi, l'abbiamo citato tante volte, l'abbiamo citato tantissime volte. Recentemente, un signore che è qui in ascolto, che è qui collegato, caro Parenzo, e che io posso definire il nostro Semprini. Sai che Semprini è passato da Sky alla Rai, no? Un giornalista che ha questo nuovo ballarò. Ecco, basta sostituire la I con la O e che cosa viene fuori? Non la I finale, la I in mezzo. Cioè Semprini, se ci metti la O, cosa spunta? Semprino. No, quella in mezzo, non Semprino. Scusami, quale O vuoi sostituire? La I devi sostituire, cioè Semprini, invece devi sostituire la I di mezzo con una O. Che cosa viene fuori? Dai. Somprino. Dai, su. Somprino. Ma no, la I, non la E. Ma io non voglio sostituire niente, per me c'è Semprini e basta. No. Semproni, viene fuori Semproni. Oh, mamma mia. Ma che mamma mia? Signor, come dica mia. Gianfranco, signor. Come stai? Bene. Come? Io sto bene. L'unica cosa, l'amico tuo, di che si è sappambo, capite? Cosa? C'è una malocca, la mette una ossa, papà, una cosa, un esame della patente, chi fa? Sta parlando la Treccani, eh? È il momento in cui c'è la convenzione con la Treccani qui, il massimo della lingua italiana. Io scherzo. No, Gianfranco, lui ti considera un po' ignorante, questo è il punto. Professore di glottologia. Ti considera? Devo fare? Ma io sono ignorante, infatti in molte circostanze sono ignorante con gli ignoranti. Violento con i violenti, picchiatore con quelli che dicono che sanno picchiare, sono un tipo molto strano. Ti considera un po' così, un po' del popolo, diciamo, uno così che non ha nulla da dire, che ha poche cose da dire, capito? Tu lo conosci uno che si chiama Parenzo, Gianfra? Parenzo, lo conosci? Parenzo, non lo conosci Parenzo. No, meno male, meglio. Perché meglio, scusa? No, non meglio capito. Adesso. No, fa il giornalista anche in televisione. Sì, vabbè. Questo... Alla no, 7. Perdonami, anch'io sono giornalista, ma non è che... No, chiedo no, scusa. Non ma conosci, io sono ignorante. Per sì, è ignorante. Ah, tu sei giornalista? Eh? Sì, è giornalista, perché qual è il problema? Ah, perfetto. Sì, purtroppo sono giornalista, faccio una trasmissione sportiva che si chiama Muso Duro. È già Muso Duro. E il titolo già dice che ma sei proprio giornalista professionista con l'esame di Stato anche tu tutto. Beh, saranno cazzi suoi. No, non sono giornalista tal. Non sono giornalista professionista. Ma saranno affari suoi, Parenzo, scusa. Eccetera, c'ho il tesserino da giornalista. Ma saranno pubblicisti. Ma scusa, Parenzo, saranno affari suoi. Dei pubblicisti, comunque, dicono che... Ma no, non voglio fare il giornalista professionista. Ma io, no, ma sono... Parenzo, considera le persone secondo una scala di valori che è tutta sua, capito? No, ma tutta mia. Tutta sua. Cosa vuole questo intellettuale della modernità, della contemporaneità? Qual è il suo parere? Lo abbiamo chiamato per quale parere? No, illustre? Io voglio fare ascoltare a Semproni quello che Travaglio pensa dell'Italia. Conosci uno che si chiama Travaglio, Semproni? Quello sì. Lo conosci. Allora ti faccio sentire quello che pensa dell'Italia Travaglio, perché c'è questa moda di essere, di tifare contro l'Italia, di essere tifo, di dire no, ma io non l'Italia mi fa schifo, non faccio il tifo per l'Italia. Aspetta, ti faccio ascoltare, signor Travaglio, senti. Io ho sempre tifato contro l'Italia, tranne quella di Berzot e quella di Zoff, sì, perché guardo molto l'allenatore. Sacchi mi dava fastidio, Vicini mi dava fastidio, Conte mi dà strafastidio. Detesto la retorica, la retorica che serve di solito a far dimenticare i problemi seri per concentrarsi sulla nazionale di calcio. Poi gli piace anche la Germania, signor Travaglio, la Germania. Italia-Germania fa il tifo per la Germania. Ma guarda, io me la Germania, a me la Germania del calcio piace dal 74. Sapete, i tedeschi, anche quando sono 11 pippe in campo, sì, comunque almeno in semifinale si piazzano. Gianfra, che dici? Che vuol dire? Che vuol sponna a Cosso? Ma quando ti dice che gli piace Zoff, gente che non parla, praticamente gli piace gli allenatori che non parlano, capisci? Questo invece è un grande motivatore, Conte, eccetera, eccetera. Ma comunque, se gli piacciono i tedeschi come gioco, noi l'abbiamo sempre battuti, sempre battuti. Quando ci sono gli scontri diretti, sì, sì, quando si fa nelle amichevoli, facciamo fare 4 gol. Ma è la tua partita, però, Italia-Germania, per i come due... no? La Merkel. Ne vogliamo parlare della Merkel? Ne vogliamo parlare della Merkel o no? No, che parliamo a patante, mo' è finita, non sa manca che è venuto in balle, che si viene solamente qua a farsi massaggi. Ma che tipo di massaggi? Se per paesi, capito? Lascia perdere. I già sacci che tipo di massaggi si fa, capito? Ma che massaggi fa la Merkel? Aspetta un attimo, aspetta. La Zanzara. Allora, eccoci qui la Zanzara, in collegamento da Pescara, il mitologico Gianfranco Semproni, che pochi giorni fa ha detto questo sul Belgio, sentite. Se voi mi dite che il Belgio sta nel ranking mondiale, sta prima, ha vinto un campionato d'Europa di ragazzi, non M25, abbiamo vinto 4 campionati del mondo, abbiamo vinto un europeo tipo questo qui, stanno al ranking mondiale prima, ma che poi, busta l'ore? Non... Sin da me, Sergio, là ci sta Romagna Mammini, quale ranking? Ho visto sta squadra, là ci sta Hazard con lo piccoletto, lo nanetto e basta, lo resti che a domanda, a dove si presenta? Ci sta con lo cappellone, il portiere, 25, 30 milioni, ma quale? In bacia alle dita 30 milioni, quello che te... La cima dei capelli, sta chiuso come la campana. Fellaini. Come si chiama? Fellaini. Maia, insomma, lasciami per. Cusson, non mi viste niente. Te solo lo capello vale 30 milioni. Bacia le dente 30 milioni. Che significa poi in faccia ai denti? Gianfra, ma il Belgio bacia è forte. Bacia vuol dire dargli, capito? Qua, bacia le dente. Ma è forte il Belgio! Ma senz'altro, è un'ottima squadra, però... Ma com'era il ranking? Com'era il ranking? Sta... tiene solo il cappello. Non esiste che stanno... Comunque... Com'era il ranking? Il ranking, capito? Ranking. Mettono... Ma là ci mangiano, capito? Tanto lo sai, pure tu, ste cose, per l'amor di Dio. Ma è Fellaini... perdere. Io dico solo quello che penso. Com'è Fellaini? Che cosa... Qua non hanno vinto niente, parlano di ranking. Ma come fa lo ranking? Intanto è arrivato... Brasile. Sì. Ci può entrare il Cile, ci può entrare l'Argentina, l'Italia, sì, ma non il Belgio, non il Belgio. Queste dice. Sono le nazioni che portano il calcio. Ma non il Belgio. Non il Belgio. Lasciamo perdere. Allora... Contenti loro, contenti tutti. Noi abbiamo fatto 2 pere al Belgio. Io spero di incontrarli alla finale, rincontrarli di nuovo alla finale. Senti, Gianfra, devi sapere... Intanto è arrivato Luca Telese, saluta Peppino! Ciao, buongiorno. Allora, Gianfra, ti voglio chiedere una cosa. La partita con la Germania è la tua partita, perché tu hai un pessimo giudizio della signora Merkel, diciamola tutta la verità. No, cioè... stavo dicendo, mi trovava ai bruster, loro sono abituati a mangiare i bruster, caro amico nostro. Tu sei anche, c'è la mamma pescarese, hai origini a Bruxelles, sì, tu mangi... Sì. Gli arrosticini che fa paura. Sì, vabbè, certo. Capito? Noi mangiamo gli arrosticini che fanno paura, 50, 100 durante la sera. Sì, chi può fare che li Wüstel? Qui si è persa una guerra, con lui c'è, là ci stava uno, che si chiama Hitler, ha perso la guerra perché è andato ad attaccare la Russia nel periodo invernale. Sì. Se si fermava, se avesse avuto il Richelieu della situazione, si fermava. Oggi la Germania comandava tutta l'Europa. Beh, ma che ma c'è? Siccome un cretino è un invasato, che cosa è successo? Ha fatto lo stesso errore di Napoleone, andare ad attaccare la Russia. Ma che c'entra Hitler adesso, scusa? Prego? Che c'entra Hitler adesso? Dico. Adesso arriva. Non c'entra, la gente, perché loro si sono convinti, è un grande popolo, sì, per carità, è un popolo, certo, che io ammiro, sì, è però, un grande popolo, però purtroppo ogni tanto sono guidati da gente, capite, un po' strana, che la coccia, una preghi strana. Che vuole dominare Merkel, tutto. Tu lo sai quanti soldi ha la Merkel? Che cos'ha questa qui che c'ha, nel governo europeo? Che c'ha? E me che te le dico, no? No, che no, c'ha? Dillo. E me che te le dico, tutte le macchine che si danno a tutti gli onorevoli, eccetera, eccetera. Ma che li passa tutti lei, tutti i furgoni, eccetera, eccetera. Lascia perdere. Un mare di soldi in campo. C'è un garanzo, ma che vuole fare? Vuole dominare tutto? Che vuole fare? No, ma tanto alla fine, quando il signore gli suona la campanella, gli dice: senti, Merkel, devi venire qua su. E non andrai dove sta Semproni, capite? Il paradiso. Tu vai sotto, perché Semproni guarda dall'alto in basso. Ah, l'inferno, dice. Perché qua non ti puoi portare niente, manca la foglia di fico con quella fica spelata che avrà, quindi manca quella. Ma che ne sai che c'ha la fica spelacchiata? Scusa. Ma chi può fare? Che può tenere? Un tipo come quello che te la fica precisa, fatto bene, spelacchiata, che uffa, quando si ha una certa età. Quindi o è precisa o è spelacchiata. Devi sapere, caro Luca, che Gianfranco Semproni in età, credo, qualche tempo fa ha fatto anche il gigolò, cioè è stato anche un gigolò, così ha raccontato, sì, lui, giusto, sì, giusto. Sì, ma era quando ero ragazzo a Roma, studiavo a Roma. E che facevi per mantenerti? Che facevi? Ed ero un bellissimo ragazzo, però non fraintendete, perché qua la gente, capite sempre, io accompagnavo, sì, ero fermo davanti al Caffè dei Parì a prendermi un caffè, cioè a Via Veneto, in Via Veneto, sì. A un certo momento passa un signore, sì, e mi dice: mi scusi, posso sedermi? Allora, la prima cosa che sto pensando è che è nata la recchia. Qua sembra ogni volta, capito? Come vedono un bel ragazzo subito. C'è un frocio, insomma. Allora mi ha detto subito: guarda, non mi fraintenda. Volevo, sì, solo parlare. Siccome ho visto che è un bellissimo ragazzo, io, sì, ho un'agenzia di diciamo così, di hostess, di gigolò, eccetera, eccetera. Ho capito, ho detto: il gigolò che la parte, l'accompagnatore a qualcuno, sì, alle donne che vengono dall'Inghilterra, dall'America, eccetera, eccetera. Sì, questo sarebbe il suo lavoro. Cioè, se lei paga, se lei mi dimostra che e vale per quanto l'hai fatto sto gigolò? Questo l'ho fatto per circa 9 mesi, quasi un annetto. E poi quanto trombavi? Quante volte trombavi? Manco una volta sono trombato. E perché io quelle donne non me le scopavo. Cioè, quelle donne una volta, quando noi eravamo ragazzi, giovani, la cinquantenne, manco la calcolavamo. Io dicevo: la Madonna, e che facevi? La toccavi? Che facevi? Niente, l'accompagnavo, che ti devo dire. L'accompagnatore, locali, il personal shopper antelitto. A ballare, capisci? Portavo la macchina, avevo la macchina dell'agenzia. Solo, sì, che poi quando lei voleva arrivare al dunque, sì, dice: ma perché non andiamo, facciamo l'amore? Io mi metto a fare l'amore che te. Ma guarda che io pago l'agenzia, capite? Prendeva 500.000 lire allora. A me ne toccavano 300 e l'agenzia 200. Se avessi fatto questo, io non l'ho fatto mai. Per il semplice fatto, perché io non sono un animale, capite? Non sei una persona con dei sentimenti, devo provare, per fare l'amore devo provare qualcosa. Ah, e sì, mia moglie lo sa. Ma tu hai mai tradito tua moglie? Una bestia, hai mai tradito tua moglie, Gianfra? Sì, qualche volta, no, ma gliel'ho detto sempre, io sono stato sempre leale, perché il lavoro che facevo... Ma con le prostitute? Con le prostitute oppure così? No, quale prostituta, non fare le palle, chi vuole che la prostituta, chi è che la prostituta può fare? Poi, se pure che quella che ti scopava era una prostituta, che ne sai? Però ma non era prostituta, non era prostituta. Mi facevo dare la carta d'identità, no, erano tutte, c'è, avventure che girando per l'Italia, per il lavoro che facevo... Hai confessato? Io gli ho detto: guarda che se mi capita dentro l'albergo una donna che sta là, lei mi guarda, io la guardo, lei mi guarda, io la guardo, e le chiacchiere se porto lo vende, facevici sta scopata e sta poi, io però ce ne faccio, sono detto a mia moglie, certo. Se lo facessi io gli ho risposto: sto occhi che non vedono, cuore che non duole, però se ti acchiappa a casa mia, al letto mio, con uno, e ti stacco la coccia a te e a quello ti stacco la coccia, ti stacco la testa, e che sarà mai un tradimento, Gianfra? Ma poi lo dico a parole, ma poi non l'avrei fatto, capito? Lo dico a parole, è lì per lì, dipende poi anche dalla reazione che hai momentanea. Non c'è dubbio. Sicuro che di una traversata oppure no, è uno che le reazioni umane non si sanno come possono essere, capito? No, beh, assolutamente. Sarebbe bellissimo essere signorile e dire grazie, si è divertito nel mio letto, eccetera, eccetera. Mi discorre. Devi sapere, caro Telese, che Gianfranco Semproni ha un'idea particolare sui giocatori e il sesso. Esatto. È molto interessante sui giocatori e il sesso l'idea di Semproni, perché recentemente Cristian Bieri e altre persone hanno detto che scopavano tutto il giorno, che scopavano continuamente, si facevano fare i pompini fuori dai campi d'allenamento. Cioè, il sesso è propedeutico. Cioè, il sesso. Non, addirittura può aiutare. Invece Semproni pensa che sia una roba terribile per i calciatori. Gianfra, o sì, sbaglio? Sì. Eh? La donna è 100 volte superiore all'uomo sessualmente. Cioè? L'uomo sciocco crede che c'ha la forza. La donna può fare 100 volte sesso, si dà una sciacquata e ricomincia da capo. L'uomo invece gli faccio fare quelli che dicono che scopano. Voi sapete come scopano. Ma cacchina, una prega di gente sa scopare. Un sacco di poi gente, ci stanno i ciuni che non sapano le cate di figa, ma anche se ti sbatti là per terra, a chi si ingorda la lingua, chi acchiappa la parale sanumente, chi ci capisce niente. Comunque, lasciamo perdere. E allora, lasciamo questa perdere. È Radio Progresso. Io ti faccio fare una tripletta la domenica, quando è finita la partita, ti faccio fare un'altra tripletta il lunedì. Sì. Anche martedì ti faccio fare un'altra tripletta. Poi il mercoledì ti vengo a trovare all'ospedale che ti stanno a fare le fleb. Perché questa, non ce la fai più. La famosa massima di Semproni della tripletta, sì. Esatto, io a Coco gli dico o ti fai l'arcuri o ti fai la fascia. Ci ha fatto l'arcuri, ha finito Coco, finito completamente. Coco e la fascia, stupendo. La metafora di Coco e la fascia. Beh, pure Vieri è stato un po' rovinato dalle donne, diciamo. Ma è chiaro, perché non puoi reggere quei ritmi di anzi, oggi il calcio è ancora più esasperato. Ci certo. vuole un ritmo, ci vuole una dedizione, sacrificio, rinunce, applicazioni. Il calcio è questo. Del resto, ragazzi, questi guadagnano le milioni, mica guadagnano 50 no, lire. No, ma certo. Senti, l'ultima cosa che vorrei chiederti, Gianfranco, poi ti lascio, ma mi devi venire a trovare più spesso perché le tue massime sono eccezionali. È i vegani. Come consideri tu i vegani? Quelli che fanno la guerra contro gli arrosticini, quelli che rompono i coglioni a me, quelli che non vogliono, quelli che considerano chi mangia la carne come una specie di assassino, mangia cadaveri, no, cioè come li consideri? Ma che perché solo i vegetariani allora danno a campare. Vegetariani. Quindi allora i vegetariani se ne vanno che le pecore, stanno che le pecore e con i pastori fanno la stessa cosa. Queste sono tutte cazzate. Se ci stanno gli animali è perché probabilmente il Signore ha detto che noi possiamo mangiare la mucca, le pecore e compagnia bella. Che sono tutte cazzate, tutte cose strane che la gente, capito? Ma sai chi sono i vegani? Tu li conosci qualcuno di questi vegani? Li conosci o no? Vegani. Come si chiamano questi? Vegani. Ne hai mai visto vegani. Uno? Vegani. Ma lo sai che significa vegani o no? No, manco le sacce. Vegani. Che so? I vegani, quelli che non mangiano né praticamente né carne né vegetali, pesce né tutti vegetali, i derivati animali non li mangiano. Quindi allora non possono neanche leccare la pica questi rettilini. Che cazzo c'è? Questa qui? È una teoria interessante, sì, perché in non ho capito il legame. Non possono fare per non dire altre cose. Lasciamo per questa gente che sta malata lo cervello, meglio che si fanno vedere da cacche d'uno, capito? Che non stanno bene, che cazzo vuoi fare? Ci sta sta gente, ci sta una frega di matte nel mondo che si preoccupa dei vegani. Altra teoria interessante è lui cosa farebbe agli ultra del calcio, perché lui ha una ricetta molto semplice con gli ultra del calcio. Interessante. Con gli ultra del calcio. La ricetta Semproni con gli ultra del calcio. Vai. In che senso? Quelli che devastano le città, quelli che rompono i coglioni. No, questi sono semplicemente dei delinquenti. Questi non sono. Io sono stato un ultra, sono stato un curbista per tantissimi anni da ragazzo. Sì. Del Pescara, sì, discorrente. Poi tu non sai che io sono cintura nera, decimo Dan, quindi caro mio, quando mi vedi all'eticato non puoi... Però questa gente, ecco, faccio solo un esempio, sono venuti gli olandesi in Italia... Sì, me lo ricordo, quelli a Roma, sì. Che gli avresti fatto? Io, ma quelli che avevano la chiave delle carceri, metteva dentro, e fino a quando il loro paese non ci riparavano tutti i danni che avevano procurato, col cazzo che avevano rimandato, capite, alle loro case e alle loro famiglie, ci stavano qua, ma siccome noi abbiamo... un governo debole con i forti forte con i deboli, di che cazzo stiamo a parlare? Questi sono solo dei delinquenti. Chi se la prende con una statua del Bernini, una piazza di Spagna con delle sculture meravigliose, è solo un grandissimo testa di cazzo, ma non basta solo testa di cazzo. Quello è dentro il cervello, non c'hanno niente. Quindi vanno trinciati come il sale. Tu sai che uno di quei giocatori dell'Islanda, adesso fantastico, tutti fanno il tipo per l'Islanda, ha abitato a Pescara, Bjarnason. Ma mi ha raccontato una cosa incredibile, Semproni, che praticamente stava sul mare, sull'acqua, faceva una cosa... Lui, questo ragazzo meraviglioso, nel periodo invernale... Che faceva? Siccome era un solitario, un taciturno, eccetera. Adesso è cambiato perché ha incontrato una ragazza di Sant'Angelo, un paese di papiglio che si è sposata... ed vive veramente di città Sant'Angelo meraviglioso perché ha incontrato la voce. Questa a mezzanotte d'inverno si metteva un costume da bagno e andava là ai grandi alberghi di Montesilvano sopra gli scogli, capita? A mezzanotte d'inverno stavamo forse meno 10, meno 15, meno 20. Quelli incontrati un orso là vicino, ha incontrato un orso, gli ha detto: ma dove cazzo vivi? Piano sono mi vado un po' a rinfrescare là sopra gli scogli perché sono pensieroso. Ma guarda che fa lo freddo, sento freddi che ti ingra cazzo di pellicci, che fa paura. Tu che cazzo mi fa? Se ti vuoi riscaldare invece, trovati una donna, perché il Signore ci ha dato la donna. E l'ha trovata, e l'ha trovata. Non devono prendere la cocaina, le pasticche, eccetera, eccetera. Tu puoi fare sesso, ti metti a letto con una donna, di 4-5 ore di sesso, ma come si deve, capisci? Ma con la cocaina non ti si, con la cocaina non ti si alza più l'uccello poi, eh? No, ma no, questa gente purtroppo, a me dispiace, ce l'ho nel cuore questi ragazzi che ancora riescono a capire i punti di riferimento nella vita, è le così. Persone, io li dipendo sempre, perché non è colpa loro, è colpa ma del di Renzi sistema. Che pensi di Renzi tu? Di Renzi che pensi? Ma no, che cazzo vuoi pensare? È tale qua la tagliata, tale qua la tutte quante, non ci sta nessuno. Dal 1945, da quando ha finito la guerra, allora, caro... Ma tu sei uno Luciani, che lui, tu sei uno di quelli che dice quando c'era lui? Esatto, esatto. Ah, ti piace lui? Sempre, ti... Io sono stato sempre un grande ammiratore di lui. Ripeto, c'era quella grande... presidentessa dell'Inghilterra, adesso mi sembra la Thatcher, non mi ricordo sì. bene. Ma no, ma a te ti piace lui, il duce, lui? No, lui mi piacevano le sue idee, non è che mi piace che cazzo. È la stessa cosa, è la stessa cosa però. È che mi piace lo duce, no. Noi le camicie nere, queste forme così. Però ti piaceva lui ti piace lui. Lui, ma un poco fascista, come si dice? No, sei un po'... No, io sono sempre stato di destra. La destra se ti piacciono le sue idee, sei stato di destra. Sono della destra almirandiana, ti piace un po' lui, ti piace, dai. No, mi piacciono le sue idee, mi piacevano le sue idee che io ho studiato. Beh, un po' di ebrei le ha messi pure lui, no? Le ha mandati pure lui da qualche parte, no? Poi ha fatto la guerra con Lupaz là. Lupaz, però quello sapesse intanto in quel periodo lui si è messo con la persona più forte di quel momento, Spiro Chiunga, ad allearsi con la, poi Aide Comaes, con lui ha fatto Lupaz, che cazzo volevi fare? Io ho incontrato Badoglio, tutta quella gente intorno a loro, tutti le caculi. Vabbè, sei mussoliniano, dai. Sei mussoliniano. Ti risceglie purtroppo. Sei mussoliniano, dai. Sei un po' mussoliniano. Non è un argomento che si può discutere, capire che no, per carità, minuti, per carità, certo. Molto lungo, molto certo, lungo. Ciao Gianfra, presto. Quindi, vieni a trovare presto, Ciao, abbracci, ciao. Ciao a tutti, ciao, arrivederci. Ciao. Viva Goldrake che ammazza i vegani. La zanzara. I'm a real wild one. Eccoci qua, Luca Telese, in studio a Milano. Che vuoi, Luca? Che c'è? Stai bucando la notizia del giorno. Che è successo? Io non riesco a capire se c'è un argomento più zanzarista in assoluto. È la rivolta dei cinesi. La rivolta dei cinesi? Ah, quella dove a Sesto Fiorentino. L'anno del dragone, sembra guerriglia. Ma che è successo? Non so manco che è successo. Ma vanno a fare un controllo. Sì, l'ASL, chi? Carabinieri, polizia, sì. Un'azienda sanitaria. In questo limbo di capannoni, di incognita, di nulla, non si sa nulla. E improvvisamente bucano fuori 500 persone che vanno in piazza, assaltano la polizia. Non so se hai visto le immagini. Sì, sembra Tiananmen insanguinati, poliziotti tutti buoni buoni, e quelli l'inno tirano cinese. Cose. La bandiera! E tu questa cosa qua non la vuoi manco discutere? No, ti do questa provocazione. I cinesi sono diventati italiani perché un minuto dopo chiagnano le foto. Oddio, c'era un vecchio che è stato toccato. Oddio, i poliziotti hanno fatto cadere, hanno ferito un bambino. Cioè tu dici come a Scampia, come in alcuni quartieri c'è di città italiane. C'è un d'Italia che non è più Italia. Loro vogliono i privilegi del mi faccio i cazzi miei nel mio paese, nel paese. Però poi voglio piangere come un italiano. Oddio, mi hanno trattato male. Pazzesco. Ma ora sei diventato anche filo cinese, non lo so. No, ma non sono diventato filo cinese, ho visto sta rivolta a Sesto Fiorentino, sì. Oggi. No, sì, insomma, cioè, ho adesso, visto. Mo' a rivolta ti sembra uno scherzo. No, ho visto sta cosa a Sesto Fiorentino, però francamente, sì, hanno rotto i coglioni ai carabinieri, ai poliziotti, hanno fatto casino, eccetera, per un controllo, però non si sa bene quello che è successo dentro. Certo, hanno fatto il controllo. Un controllo. È considerato un sacrilegio fare un controllo e ti fanno la concorrenza sleale, loro fanno quello che vogliono e poi se uno apre una tabaccheria ti mandano 400 punti. Deve finire, lo Stato è lo Stato, deve finire. Cioè, o stai qua, non stai qua. Si devono arrendere ai controlli come quando vogliamo noi. Come quando vogliamo noi. Sì. Vabbè. Allora, Marco da Firenze, vai Marco. ciao. Dimmi, allora, dimmi. Io ti chiamo perché qui a Firenze, cioè, sì, la città è divisa in due. Di là Darno, che c'è tutte le botteghe, sì, gli, sì, artigiani, le pizzerie buone. Ma dall'altra parte, dal Duomo, è già un centro commerciale. Ma di cosa si lamenta? Sì, ma soprattutto anche i ristoranti, quelli cosiddetti tipici e tradizionali, spesso sono cose fatte per turisti. Con tutto il rispetto, fanno schifo, diciamo la verità. Sì, qualcosa, cioè, di sì, qualcosa no, certamente, come tutte le cose. Ma dall'altra parte c'è Apple, cioè il McDonald's va a sostituire l'Universo Sport, non è che va a sostituire il Lampredo Taro, quindi, cioè, ci stiamo prendendo in giro. E perché, cioè, e perché tutte le piazze d'Italia, e perché, perché secondo te, che sei di Firenze, Nardella fa questa scelta assurda? Ma sì, perché adesso c'è una specie di moda, di cose buone, perché per esempio al Mercato Centrale hanno messo, che dalla parte turistica, San Lorenzo, tutta una serie di botteghe, di cose, poi chiudono cose agli occhi su Apple, su altre cose. Cioè tu dici, Apple sì, l'Apple potrebbe andare bene e McDonald's no, dici? No, Apple va bene, è in Piazza della Repubblica, quindi Apple va bene, con il logo della mela sotto gli archi, non è nascosto. Andate a Siena, andate a vedere Piazza del Campo, come sono le insegne, sono tutte marroni. C'è una specie di razzismo perché McDonald's no, personifica, cioè, sì, è il simbolo del male, del cibo schifoso, sì, questa M. Guarda, ti dirà di più, è anche un vegetariano, ma è sincero, è così, chi se ne frega, voglio dire, è McDonald's, deve fare notizia che apre McDonald's in Piazza del Duomo, che c'è davanti a Piazza alla Stazione, c'è dentro alla stazione. No, ma certo, assolutamente. Ma di cosa stiamo parlando? Ciao, Teresa Torino, vai, ciao. Teresa, vai. Ok, buonasera, dottor Crociani, volevo, dimmi, solo raccontarle questo. 10 anni fa circa sono andata a Napoli ad accompagnare mio marito per un congresso. 10 anni fa, sì. Allora? Ecco, io ho girato tutta Napoli da sola, però seguendo il consiglio di una collega napoletana, sì, verace, non mi sono portata neanche la borsetta. Ecco, avevo appunto circa 15 euro in tasca e boh. Sì. Sono andata a vedere il bellissimo Cristo Velato. Vabbè, adesso non ci riassuma tutta la sua gita a Napoli. No, questo poi è il fatto. No, è questo. Quando sono uscita dalla chiesa, dopo circa 50 metri, mi ha avvicinato un signore che avevo visto fermo all'angolo. E dunque? E mi ha detto, signora, l'accompagno giù fino all'uscita del quartiere. Mm. E si è messo a mio fianco, mi ha accompagnata fino in fondo, e poi mi ha salutato gentilmente. E io mi sono chiesta, ma chi era questo? Una persona che fa la guardia al quartiere, che controlla chi sale e chi scende, proteggere le persone che, non essendo napoletane... Vabbè, magari... allora, dunque? Ecco, no, volevo dirle che se si va a Napoli, giustamente, bisogna sapersi comportare, non andare ingioiellati. Ma, sì, ma io ho detto una cosa semplice che ha attirato non so quali proteste, eccetera, eccetera. La signora Turner, sto parlando della signora Turner, cioè la CNN, una milionaria, ultramilionaria, va a Napoli con suo Patek Philippe, con la sua Porsche decappottabile, si ferma con il braccio di fuori e poi si stupisce perché dopo 3 minuti viene rapinata. È vero, Napoli è una città particolare, dopo 3 minuti c'è una rapina, ma dovrebbe essere, no, fare la, per carità, quelli vanno arrestati eccetera, dovrebbe essere denunciata per coglionaggine. Non poi vai a protestare con De Magistris. Cosa protesti con De Magistris? Era il mio sogno venire a Napoli. Ma perché se va a Harlem? Ma no, a parte che Harlem è una cosa un po' diversa rispetto al passato. Ma non gli frega il gioiellino. Ma non ci va probabilmente, perché non ci va, cioè, ma non ci va in quel modo. Se va a Caracas. Ma no, ma Caracas è diverso. Sì. No, però in qualunque periferia. In qualunque ma lì non è andata in periferia, è andata dopo 3 minuti a Napoli, la rapinano, perché appena vedono una con l'orologio, un'americana con l'orologio, con la Porsche decappottabile, eccetera, si avvicina qualche delinquente. Ma la colpa è di quelli, ma è soprattutto tua, perché tra l'altro ti avevano pure avvertito, così ha detto, poi vai a protestare, a fare il piagnisteo Magistris che risponde pure, dai, su ragazzi, ma di che parliamo? Giovanni, provincia di Salerno, vai, anzi no, fermi tutti. Efe, come stai? Ciao, buonasera a tutti, sto benissimo, Cruciani. Ciao amore, quanti clienti? C'è anche Luca Telese. Quanti clienti oggi? Com'è andata? Ho fatto 3, ma forse stasera verrà un svizzero che mi ha appena chiamato. Ah. Dai, adesso è estate, dopo che finiscono le scuole, purtroppo il giro un pochettino cade. Poi io dovevo partecipare al Maurizio Costanzo Show, l'ultimo programma, poi però me l'hanno disdetto, visto che sono un personaggio quasi politico, quasi un personaggio politico. Mm. Allora, siccome c'erano dei ballottaggi, mi hanno detto no, ci vediamo dopo settembre, quando ritorniamo. Scusami, ma perché il giro diminuisce quando ci sono, quando non si va la più scuola. Quando ma le scuole state, perché ci sono più locali, spiagge, tante cioè gente i padri in teoria restano da soli. Io lavoro di meno a luglio, ma di più in agosto, quando le mogli vanno in vacanza e i mariti che devono rimanere a Milano per lavorare. Lavoro molto di più in agosto che sia e lavoro meno a luglio e a settembre. Purtroppo a settembre riaprono le scuole, tutto il casino, cominciano a lavorare di nuovo, tornano le mogli, quindi settembre è un mese di cucù per me. E invece luglio, i primi caldi, cerco di andare un po' in vacanza, le spiagge, viceversa, funziona così. Comunque, senti, insomma, hai mantenuto la promessa di avere votato Sala e dopo non so che cos'è che dovevi fare dopo? A due ragazzi ho fatto lo sconto di 10 euro. Ma veramente? Sì, guarda che... Ma ti hanno portato la scheda elettorale? Pensa quanto sono forti, soprattutto su Twitter. Due giorni fa, mentre raggiungevo l'orgasmo, ho pubblicato un mio cliente, mentre mi aiutava a raggiungere l'orgasmo, mi ha filmato, abbiamo pubblicato 2-3 video su Twitter, in due giorni sono 11.000 visitatori. Vabbè, ma adesso non esageriamo. Ma poi 11.000, col sesso, poi, scusa. Se io dico, ragazzi, vi faccio un fellazio, insomma, un pompino senza preservativo, basta che non votate, Parisi, qualcuno veramente lo prende sul serio e mi chiama. Ovviamente io, essendo sempre in gioco, perché mi piacciono questi tipi di giochi. Ma perché non ti proponi a Sala come consulente per la prostituzione a Milano? Allora, guarda, prima o poi mi chiameranno in televisione, o anzi magari ci chiameranno in televisione, perché prima o poi questo nuovo sindaco, come ci sono accorti anche altri, vedrà che in giro ci sono le mignotte sulle strade, prostitute e viceversa, e dirà, oddio santo, va bene le moschee, però non possiamo mandare i musulmani a moschee passando davanti di queste prostitute. Dobbiamo non mi sembra quello sia il problema. Senti una cosa, ma è vero o no che sei stata denunciata, anzi sì, è vero, da un signore che si chiama Rizzi della Lega? Un orso mi ha chiamato. Un orso? Non hai visto la foto? Ho visto tutto. Allora, ricapitoliamo, insomma, questo Rizzi è un politico della Lega Nord? Un consigliere di... provinciale, non so dove. Provinciale. Non so di dove. E mi ha denunciato. Come si chiama di nome questo qua? Rizzi è di nome? Michele Rizzi di San Giuliano Milanese. Seguivano 10 persone, io ero l'11esimo, mi sembra oggi lo seguono tipo 20 persone. Vabbè, ma sei andata con lui o no tu? Non ho capito. Sì, ma abbiamo mandato il messaggio. No. Cioè tu sei andata con lui, ma non si può, cioè, stato un tuo cliente. Allora, come posso dire? Hai rotto il segreto professionale. Vuole suicidarsi e così mi denuncia per diffamazione. Cioè, un cliente mi denuncia per diffamazione... Io non lo so. Ma io non ho capito perché è uscito fuori il fatto che tu sei andato con lui? Scusami. Allora, io ho letto tutto l'atto dall'avvocato. Lui prima di tutto mi odiava perché ero amica di Salvini, ci siamo andati in televisione. E invece ti cercava? E invece... Così ha cercato questo personaggio, questo FBA, mi avevo visto anche in televisione, scopre e capisce che comunque gli piaccio. Alla fine mi aveva mandato il messaggio dicendomi, chiedendomi dove sei, io avevo risposto subito come faccio tutti, mando il mio sito che è scritto tutto, e lui è venuto come cliente una sera e poi ci siamo litigati perché lui continuava, cioè lui postava delle cose sulla sua pagina di Facebook dicendo no way for gay, era quasi omofobo, quasi. Alla fine io ho reagito un pochettino male. Beh, scusa, l'hai sputtanato. Scusami, quindi però questo... vivi e lascia vivere. Aspetta un attimo, allora qui c'è una cosa molto chiara. Aspetta, no, ma io sono d'accordo con te, ma devo interromperti un attimo, allora che c'è la pubblicità. Sì. La cosa è questa. Allora, praticamente Efebal in sostanza rompe un po' il segreto professionale dicendo che un politico della Lega è venuto a letto, è andato a letto con lei, credo pagando, nonostante il fatto che abbia delle posizioni su Facebook omofobe. Cioè dice ma no aveva way pagato Efe, aveva aspetta, pagato. Aspetta, prima la pubblicità. Siete goduria. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Helios Patient Portal, è il portale paziente della sanità. Vai su helios24.it. La Zanzara. Allora ragazzi, abbiamo Efe Balla in collegamento perché... Buonasera, buonasera. Perché il 8 luglio sarò in tribunale, per la prima volta andrò con un tubino. Ma 8 luglio di dove? Di quest'anno? Senza mutande, almeno metterò le mutande di Belen, cioè non ci saranno i fianchi, ma mi terrà il pacco soltanto questo davanti. Sì. In un modo molto sexy, molto profumata. Ma perché vai in tribunale? Non ho capito, perché vai in tribunale? Per diffamazione, perché... Perché Michele Rizzi mi ha denunciata per diffamazione. Ma perché? Prima parlavo di questo. Allora, se tu vai a letto con una trans per farti fottere, soprattutto, sì, alla fine, perché era pure passato, ma tu non puoi dire questo. Dopo un giorno, dopo tre giorni, non cominci a litigare con lei almeno facendola capire che tu sei quello lì. Che tra l'altro non eri neanche ma scusa, ma tu non puoi dire però che lui è andato, non puoi sputtanare così un tuo cliente, scusami. Io ho detto, scusami, ma in qualche modo io lavoro da più di 15 anni, quindi non ho mai avuto problemi con nessuno. Solo con la mia tranquillità non ha prezzo. Ma perché lui io ha detto la frase... con mia mamma, accetto tutto, però almeno taci, ci devono essere delle cose per tutta la nostra vita dei segreti. Ma tu ti sei offesa per la frase fra un gay, un musulmano, un interista... Scusami, Efe, ma tu ti sei così arrabbiata per la frase fra un gay, un musulmano, un interista... Preferirei che mio figlio nascesse interista. Ti è sembrata una questo grave frase omofoba, sì? Questo ha suscitato la tua vendetta. Non ho mai avuto problemi con l'omofobia. Anzi, ho avuto sempre l'omofobia delle altre trans e altri gay. Mi hanno odiato, mi odiano, sono gelosissimi e invidiosissimi. Ma di chi me. Ha scritto questo qua che ti ha fatto arrabbiare? Scusa, non ho capito, per tanto da sputtanare. C'era questo post nella sua pagina che ormai adesso non c'è perché ha capito che comunque era un errore. Ho capito, ma tu non puoi sputtanare un tuo cliente con uno che è venuto da te ma a pagare. Ma io non lo sapevo neanche. Ma figurati se ma pagato le anche che di tutte quelle che sono andate lette con me. Guarda, ma ha pagato o no questo qua? Tutti quelli che sono andati a letto, il mondo per me sarebbe veramente eccezionale, perché uno per uno posso raggiungere sul Facebook, chiedere come mai non passi. Ma ha pagato o no questo qua? Ma certo che sì. Ma roba incredibile, ma non si può dire così di uno, dai, su. Io ma come mai, Cruciani, io faccio la prostituta, se una viene... appunto, una prostituta, aspetta un attimo, aspetta, è normale che eccolo, paga. Eccolo. Pronto? Pronto? Sì? Pronto, stavo cercando il signor Rizzi. E chi lo desidera? Mi chiamo Cruciani. Un attimo solo. Grazie. Pronto? Sì, Rizzi? Sì? Ciao, sono Cruciani. Non so chi è. Cruciani, la Zanzara, ciao. Sì, ciao. Ciao, volevo capire, ma tu hai denunciato Efe Balla? Sì, ma non ti conosco. Sì, ma sono Cruciani della Zanzara. Volevo sapere questa cosa che hai denunciato a Feballa. È vero o non è vera? Sì, certo. Ecco, ma come mai? Non devo mica esporre a te. Ma no, ma siccome è una cosa pubblica, ci sarà un processo. Assolutamente non è pubblico. No, ci sarà È stata resa. E poi se è stata resa pubblica, per questo dico, è stata resa pubblica, io c'ho... Appunto, c'è una... ci sarà oltretutto... una sentenza che non doveva essere resa pubblica. Appunto, come mai? Lei che perché ti ha sputtanato così? No, innanzitutto non si tratta di sputtanamento ed è una definizione sbagliata quello che stai dicendo. Ti ha sputtanato. È ben diverso. Diffamazione, sì, ma perché certo. Non ho capito? Perché è arrivata a dire. Diffamazione. Sì, ma perché è arrivata a dire che tu sei andata con lei, eccetera, eccetera? Bravissimo, questa è la cosa che in fase di sentenza vorrei capire. Cioè, non doveva permettersi di dire che tu sei andata con lei come cliente? Io non sono mai andato con lei, non la conosco neanche questa persona. Non la conosci proprio? Assolutamente no. Roba incredibile, com'è possibile sta cosa? Cioè lei ci ha detto prima alla radio che tu sei stato suo cliente, eccetera. Che hai poi... pagato. Benissimo, mi potete mandare la registrazione? Assolutamente, te la facciamo sentire. Ha detto che eri passivo. No. Io pretendo la registrazione. Ma sì, ma quella la puoi controllare, adesso siamo in diretta. Certo, perché sarà un atto pubblico che io... farò un ulteriore esposto. Cioè, allora, lei ha detto questo. Siccome tu hai dimostrato di essere omofobo, diciamo, in alcune... E questo da che cosa? Alcune cose scritte, eccetera. Tipo, me lo potete leggere, per cortesia? Ma non mi ricordo, no way for gay, una cosa di no way for gay. No way for gay, non mi ricordo. Mi potete dire dove l'ho scritto e quando l'ho scritto? Ma non lo so, è quello che dice lei, non me lo devi dire a me. Io non lo so, cioè, ognuno si assume la responsabilità di... Bravissimo. E dato che io, ripeto, non conosco la persona. Sì. Sono una persona pubblica. Non l'hai mai conosciuta, non gli hai mai mandato un messaggio? Mai, Allora, no, perché lei dice allora, pure che, allora, dice pure che tu gli hai mandato dei messaggi. Che ti... Allora, intendiamoci. Se voi sapete qualche cosa, mi dovete dire prima cosa sapete voi e dopo rispondo io. No, ma io non so niente, io ti sto dicendo quello che mi ha riferito no, lei. No, mi sembra un'accusa da parte ma no, vostra, ma figuriamoci un'accusa. Io ho detto semplicemente certo. Addirittura che non doveva sputtanare uno che in teoria sarebbe stato un cliente, se è vero che è stato No, sarebbe stato, non esiste. Perché questa persona, ripeto, non la conosco. Primo. No, mai conosciuta in vita tua? Mai conosciuta in vita mia. Mai conosciuto. Vabbè, ma perché mica siamo la polizia noi, non è che vogliamo fare questa cosa. Siccome... No, però mi sembra una cosa. Ma figurati, non è un'accusa perché abbiamo addirittura chiesto conto, abbiamo detto perché metteva in giro questa voce. Lei ha detto, siccome ha fatto commenti omofobi diversi, verso io provato. Ma no, verso chi? Verso i gay, ha detto una persona. No? Ok, verso la sua persona? No, ma i gay in generale. Okay, perfettamente. Invece lei ha colpito direttamente la mia persona mettendo addirittura i miei dati pubblici. Ha messo addirittura la mia azienda dov'è. Mm. Ha messo i dati della mia azienda che io sono stato costretto a cambiare addirittura la ragione sociale della mia azienda. Addirittura? Certo. Ho dovuto cambiare la residenza perché ha pubblicato la mia residenza. Io sono consigliere comunale. Sì, sì, no, ma infatti... Questa cosa mi ha rovinato. Addirittura rovinato perché per l'immagine certo. un leghista non può andare con i trans. Non facciamo cose, non diciamo stupidate. Questa è una gran stupidata, non parliamo di politica, non c'entra niente la politica. Stiamo parlando di Michele Rizzi. Allora un uomo non può andare con i trans perché questo rovina la sua immagine. Tu sei andato? Io no, mai. Neanch'io. Non mi arrabbio se non me lo dice. Gli rispondo tranquillamente, cioè non mi sento toccato sul vivo. Ascoltami. Sento una voce commossa. No, commossa. Vibrante, cioè, alterata. Verso di me, se tu mi dici una cosa verso di me non vera, io mi altero. Ok? No, io però... No, fammi finire. Tu non è che ti ha detto che hai ammazzato qualcuno, Ascoltami. Tu sei andato? Ma no, a pagamento? Nemmeno a pagamento. No. Ma qual è il problema? Cioè, non è un delitto essere andati. Sì, non è un crimine. Ascoltate. Tu sei andato? Ma non è quello il punto adesso. Tu sei andato? Ma che vuol dire? Cioè, non vuol dire niente. Io sono. No. Ok, neanch'io, punto. Siamo uguali. Ma non è un crimine, se qualcuno me lo dice, non è che lo denuncio. Non è che lo denuncio. Ma non è se uno mi dice sei stata con me. E vabbè, pazienza, io dico di no, non è che lo porto in tribunale. Cioè, è evidente. Rizzi, scusi, mi pare di capire che lei ritenga offensivo il fatto di essere stato con un uomo. È vero, lei sente di essere offensivo che è stato ipotizzato e sia andato con un uomo. E questo è il punto, no? La ferisce questa cosa. Il fatto di offensivo è il fatto ma un po' anche questo i propri dati ma quello è un altro discorso i propri dati no però lei ci ha chiesto voi siete andati con un trans noi abbiamo detto no è finita qua invece evidentemente lei si sente molto ferito da questa cosa allora non è vero perché non mi interessa e ha la voce alterata si riascolti no ma perché mi state fastidio mi state provocando mi date fastidio ma no ma che fastidio che fastidio stiamo discutendo è una questione civile perché voi volete che io raggiunga un obiettivo quello che voi volete qual è l'obiettivo quale vorrebbe ma sì dire che sono omofobo che assolutamente no non no è. Che cazzo anzi ne frega? Se fosse andato non sarebbe omofobo no ma non è che no ma scusa vuoi parlare con F Ballo tu ci vuoi parlare con F Ballo no per quale ragione? Ci vuoi parlare o no? C'è la sentenza? No, c'è l'8 luglio? No, non c'è la sentenza ancora. Ancora non c'è. Quindi certo. Sentire che l'8 cosa lei dice. Ci vuoi parlare di Visu? Ci vuoi parlare o per no? Per quale ragione? Ma non lo so, ci vuoi parlare? Se ci vuoi parlare... Perché? Perché siccome lei ci ha detto questo qua... Mi ha dato fastidio, che è ipocrita, che è venuta con me, ha pagato, addirittura è stato passivo, eccetera, e poi... Voi non avete letto gli atti, è diverso. Avete letto gli atti? No, ma io non è una questione di atti. Perfetto, ascoltami, ti piego io. L'atto è diffamazione. Diffamazione okay? Per che cosa? Perché ha pubblicato i miei dati pubblici. Ha dichiarato che io sono stato con lei. Ah, ecco, anche questo. Aspetta, anche... aspetta, in più i miei dati personali. Ma ci vuoi parlare o no, De Visu? Ci vuoi parlare lo o vedo no? Per quale ragione? Al telefono perché adesso, se vuoi te la chiamo. Ci vuoi parlare o no? No. Non hai nessuno, hai voglia o no di parlarci? Non la vuoi sbugiardare? Non la vuoi sbugiardare? Ma non ti senti sicuro di poterle dire in un faccia a faccia tu sei un imbrogliona, una bugiarda? Parlerà il mio avvocato. Però allora non ti ci senti molto sicuro? Per questo? No, ma tu ci daremo i danni per questo? Per questo? Quindi diffamazione si chiama, ripeto. Sì, sì, no, per carità, ma ci vuoi, se non ci vuoi parlare non ti ci faccio. No, no, non ci vuoi parlare. Ok, no. Non ci vuoi parlare, va bene. No, perché c'è una sentenza che sarà l'8 luglio, sì, dove i miei avvocati dichiareranno tutto quello che questa signora ha fatto. Sì, e sì, dopo lì sarà un giudice che dirà, ho ragione io, Tortoleba. Va bene, va bene. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao Efe! Ciao! Ciao, posso ciao parlare? Posso parlare? Sai, se ti mettevo là poi succedeva un casino, eh? No, lo so, però hai capito anche tu che è una persona abbastanza strana, tantomeno che non ti conosce nemmeno e non vuole parlare con me perché ha paura di essere... No, no, no, calma, io, calma, calma, calma, calma. Io potrei anche dire altri dettagli nel suo no, conto. No, ma io non voglio sapere altri dettagli perché sennò andiamo nei casini, noi non vogliamo venire nei casini, noi abbiamo messo a confronto due situazioni, una e l'altra, dunque noi siamo inattaccabili da questo punto di vista. Te salute, ciao amica mia, ciao, ciao. Ciao, bacio. Danilo Varese, vai, Danilo. Non quello della Lega, quello del culo. Che? No, volevo imitare quel buffone della Lega che avete appena intervistato. Vabbè ragazzi, buffone, ma se uno dice che non c'è stato e quell'altro dice è poi una, vediamo, è una versione, perché vediamo, tu credi a però Luna? Devo dire la verità, l'8 luglio ci sarà la grande forse per la prima volta uno denuncia una prostituta perché dice di scrive dice di essere andato con lei, oltre ai dati eccetera eccetera. Vedremo chi ha ragione. Quello dice, quello è stato passivo, c'ho altri dettagli eccetera eccetera. Quello dice, non l'ho mai conosciuta, non l'ho mai vista. Capito? Cioè, ma tu perché credi a lei e non a lui? Questo mi interessa, perché sei contro la Lega e quindi ti piace l'idea che Danilo sia un passivo della Lega. No, mi fa ridere il fatto che se io non ci vado e uno mi dice che ci sono andato, io faccio su una risata e si chiude lì. Probabilmente puzza un pochettino la storia. Il culetto prude è uno che va della Lega con uno che è turco, che è peggio ancora di un meridionale per loro. Cazzo, scotta! Vabbè, ragazzi, però ho capito, però adesso... Luca ride, che cazzo ride? Il turco che si inchiappetta il leghista, questo ti fa ridere. No, questo modo di dire le cose. Turco. Non avevo pensato alla variante etnica. Perché poi Efe la vedo così milanese, così trendy. Però effettivamente Danilo è diventato un adesso turco. Il leghista, cioè, là ci perdoni. Il leghista Rizzi, consigliere Rizzi, ci perdoni. Però effettivamente l'immagine di Danilo che del turco che si inchiappetta il leghista. Vabbè Danilo, che cazzo volevi al di là di questo? No, non volevo parlare di questo. Volevo dire è una ma come cosa sei con l'auricolare? Come cazzo sei? Lo levo? Lo leviamo? Cazzo, forza, su. Non mi fare dire è l'ABC degli zanzaristi. Dai. Sì, avete ragione. No, volevo parlare di una roba. Adesso mi mangerai e mi criticherai. Dimmi, io dimmi. Sono tra quei coglioni che sì, quando va a correre e vado nella felice Svizzera a correre, quando vedo una salamandra, quando vedo un rospo, quando vedo degli animali per la strada, li schivo semplicemente. Che non fai? Li schiva, li schiva, li schiva. Se sente peggio, se sente peggio senza auricolare. Danilo, io non ho capito, ma anche le formiche stai attento? Se le vedo, sì, non vedo perché. Solo per i leghisti non hai rispetto, solo i leghisti. Ah, dai, su. No, perché quella lì sono una razza in via d'estinzione, forse. Ma non mi pare in via d'estinzione, non mi pare. Il secondo partito italiano. Dai, secondo, poi, che dici? Volevo dire un'altra cosa, PD. E questa è 5 Stelle. È seria. Io sono animalista, sono vegano e tutto quanto. Vabbè, sono cazzi tuoi. Calma, calma, calma, calma. Ho un bambino di un anno e io gli do da mangiare la carne. Questo mi va piace, bene. Laico, spiritoso, un grande zanzarista. Questo va bene, ciao Danilo, ciao Marco, ciao. Provincia d'Imperia, vai a concludere, vai, vai. Vai. Eccomi, vorrei parlare della faccenda lì, della cosa lì, della Turner. La cosa lì che? La Turner. Vorrei anche parlare che secondo me, tu quanti anni hai? Quanti anni hai? Ho 21 anni. Vedi, 21 anni. Mi emoziona questa cosa. 21 anni, bello, capito? 21 anni, Marco. No, ma allora, che vuoi dire? Dimmi una cosa veloce perché devo chiudere. Una, veloce. Infatti, allora, dici una cosa anche su Rizzi. Secondo me, anche se fosse stata, non so, a Imperia o a Genova, l'avrebbero rapinata lo stesso. Ma quando mai? Esatto, ma ragazzi, bravo! Bravo. Ma che impero? Voi paragonare Imperia con Napoli? Ma perché a Imperia non possono rubare un ciondolo? Ma che stiamo scherzando? Ma tu sei pazzo, sei razzista, sei proprio impazzito qua. Ma tu vuoi paragonare uno ma che certo, arriva a Imperia con la Spezia, a Casal Pusterlengo, dove vuoi tu, rubano. È la stessa cosa di Napoli, è la stessa cosa di Napoli, con gli orologi uguale. Ma è chiaro, gli orologi non li rubano. No, ma che ma cosa ti sei fulminato il cervello? Cioè, per te è uguale. Ma io come posso Filippo venire con un razzista? È una cosa da matti. Patek, Filippo e la Porsche a Napoli la stessa cosa. Se è vai uguale, in Imperio, è uguale, te lo rubano, trovi quello e te lo frega, uguale, ma paro non dire paro cazzate. Tutti quelli che ci ascoltano lo sanno. Ma dici, ti fanno il cazzate, pacco dove vuoi. Ma no, ma che stai dicendo? Giambellino, dove vuoi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.